Molti già ci conosciamo e quindi non occorre introdurre o in qualche maniera insomma anticipare niente, perché il clima e l'atmosfera e l'ambito in cui questo incontro si svolge ormai è tanto noto. Ho il dovere invece di dare il benvenuto speciale ai relatori e il ringraziamento a tutti quelli che si sono adoperati per la preparazione di questo convegno, a cominciare dal nostro carissimo Monsignor Sartori, che si è aiutato ancora un anno fa a impostare la tematica e poi strada facendo a articolarla fino alla giornata odierna. Senz'altro io affido a lui la direzione, come al solito, vero, di questa, la direzione scientifica accademica di questa riunione. È appena necessario che io ricordi che, proprio perché ci troviamo in un ambiente, in un istituto non esplicitamente confessionale, noi questo tema lo possiamo trattare con piena apertura di cuore. Nessuno di noi naturalmente insomma presume di distruggere il papato romano in questa occasione, approfittando di questa riunione, tuttavia di avere quella libertà cristiana che è fraterna, che ci consente di esporre i nostri pensieri con tutta libertà e con tutta confidenza, direi anche, no? Credo che sia forse il vantaggio maggiore che un istituto come il nostro ci permette, perché sempre il semplice fatto che non impegniamo nessuna istituzione ecclesiastica come tale, no? Ma siamo qui come studiosi che ognuno con la propria coscienza e con le proprie cognizioni cercano di approfondire la tematica. E sulla tematica non mi diffondo ulteriormente, perché forse lo facciamo gradatamente man mano che i nomi dei relatori illustri li avete vero, sull'invito. In particolare il professor Ghiberti è stato già con noi e quindi insomma lo conosciamo. Devo particolare riconoscenza al professor Pottmeyer, che ha accettato con sacrificio di assumersi questa relazione e ce l'ha mandata, non dico ante previsa merita, ma certamente a tempo più che utile per poterne fare la traduzione, ricontrollarla, eccetera, vero? Ecco, e poi in particolare devo ringraziare il professor Peri per l'abbregazione con cui ha accettato, si è in qualche maniera piegato alle mie esistenze, perché veramente sentivamo il bisogno della sua collaborazione. Ecco, e lo svolgimento, poi il minuto, lo vedremo strada facendo, questa sera più che una relazione con un momento di discussione certamente non arriviamo a fare, resteremo insieme a cena in modo che insomma il discorso possa anche continuare e cominceremo non troppo tardi, almeno se voi non mi smentite in questa previsione, domani mattina alle 8:30 più tardi, vero, per poter anticipare i tempi da non prolungare troppo nel pomeriggio, in quanto so che la maggior parte dei colleghi hanno anche i loro impegni e insomma l'obbligo di rientrare. Auguro buon lavoro a tutti quanti, ringrazio il Monsignor Sartori in particolare se vorrà assumersi la fatica della direzione accademica del discorso. Noi dobbiamo essere riconoscenti a questo Istituto di Cultura Religiosa, di Scienze Religiose di Trento, perché dà la possibilità ogni anno di fare una certa verifica del nostro lavoro teologico e di poter inserire le nostre fatiche all'interno di un discorso scientifico più vasto. Certamente abbiamo bisogno anche di ragguagli per gli aspetti tecnici, ma dovremo aver pazienza e casomai tener conto alla fine di questa prima nostra tornata. Allora, io ho il compito soltanto di illustrare non il perché della scelta del tema né il come sia venuti la scelta, ma illustrare il significato di questo nostro incontro. Prima osservazione che faccio. Sappiamo che a livello ecumenico il tema del papato è ultimus in ordine executionis perché è primus in ordine intentionis, nel senso che non soltanto l'ha detto il Papa o lo diciamo noi cattolici, ma anche i nostri fratelli non cattolici ritengono che l'ostacolo maggiore, l'ultima pietra d'inciampo per l'unione dei cristiani, è soprattutto il papato, e quindi è su questo fronte che si misura eventualmente lo stile e il risultato di un cammino ecumenico. Anche se il cammino ecumenico ha battuto altre piste, soprattutto piste che riguardano i sacramenti, la fede dei primi concili, è su questo praticamente che si può vedere e verificare il lavoro già finora fatto. Ed è perché per voler inserire nella nostra teologia una sensibilità ecumenica abbiamo pensato di condensare un po' di riflessione su questo tema, facendone un bilancio. Seconda riflessione o considerazione. Per fortuna, diciamo così, siccome noi non siamo, soprattutto come italiani, coinvolti in maniera molto decisa nel cammino ecumenico teologico, per fortuna, pur essendo ultimus in ordine executionis, di fatto si è arrivati a livello teologico ecumenico ad affrontare questo tema. Possiamo quasi dire il discorso più veloce e più libero è stato fatto in America nel raccordo, l'incontro tra cattolici e luterani. Perfino Domb, che ha la priorità di un'esperienza ecumenica di questo ordine, non è riuscita ad affrontare questo tema. Qualche piccola foglia sparsa si trova nel documento sull'Episcopè, ma non c'è stata la possibilità di affrontare questo ostacolo. Anzi, Domb ha girato l'ostacolo nell'ultimo documento, trattando di un tema ecclesiologico di fondo, lo Spirito Santo, la Chiesa e i sacramenti. Mentre in America è stato più possibile, possiamo dire nel 74 è uscito già un documento decisivo. Poi sappiamo che a livello anche di raccordi, di accordi, di incontri dottrinali con gli anglicani, all'ultima ora è stato anche affrontato il tema del papato, anche se il tema dell'autorità nel 76 era stato trattato. Ad ogni modo però sappiamo che come metodologia, io ho questa impressione, è stato soprattutto nel dialogo luterani-cattolici, cioè i evangelici cattolici, il documento famoso di Malta del 72, dove sono stati fissati i grandi principi. Non mi riferisco soltanto ai numeri 66-67 di quel documento, che esplicitamente hanno trattato del tema del primato, ma soprattutto i precedenti numeri, dove si tratta della storicità del Vangelo. E qui vorrei sottolineare i due principi che governano un po' il cammino ecumenico, fissati nel numero 26 di quel documento. Da parte cattolica si sottolinea la gerarchia della verità, e da parte protestante, o meglio evangelica, si sottolinea l'importanza del centro dei contenuti della fede, del nucleo, come si dice. È chiaro che c'è una certa differenza, come si nota in quel numero, tra il principio cattolico della gerarchia delle verità, che ha una intonazione più cattolica appunto perché tende a recuperare sempre la pienezza della verità, mentre il principio protestante del nucleo della verità, del centro del Vangelo, ha un valore più di critica, di contestazione critica di tutte le esuberanze e delle contaminazioni. Ma quel che importa è che il senso della storicità obbliga a cercare sempre ciò che è essenziale al di sotto, ma non senza e non contro, le incrostazioni storiche o le forme storiche di realizzazione. Ed ecco allora dove noi dobbiamo verificare, io vorrei concentrare la nostra attenzione su questi punti, dove noi vorremmo verificare appunto il tema del primato per cercarne la sostanza, il nucleo, se possibile al di là o al di sotto, anche se in, con, non contro, le formule storiche in cui si è incarnato. E questo lo faremo su tre fronti: la Bibbia, la storia della Chiesa e in particolare il Vaticano I, Vaticano II, sul fronte della recezione o rirecezione del Vaticano I. La Bibbia, anzitutto. Vedere se in quale misura si possa essere un modo più profondo di legare o leggere meglio il tema del primato del Papa di Pietro all'interno del discorso biblico. Probabilmente noi siamo stati abituati a un uso della Bibbia che aveva una data metodologia, probabilmente apologetica, se non proprio di controversistica. Si tratta di vedere se dagli studi biblici in questi decenni, due decenni praticamente, in cui il dialogo ecumenico ha tentato di affondare direi, ogni discorso di fede, soprattutto nei punti di contestazione che ci dividono dentro la Bibbia, vedere se a noi teologi, a noi biblisti di Roma, a noi credenti, risulta che si debba porre in altra maniera il discorso della fondazione biblica. Al di là di una metodologia apologetica, adesso non voglio interferire, comunque vorrei insistere su questo dato. Non è importante sapere se i protestanti accettano o non accettano, eccetera, se noi cattolici abbiamo ancora delle difficoltà con qualche passo biblico, ma è importante, penso, soprattutto individuare il nuovo modo che potremmo già a priori dire forse più profondo del precedente, proprio perché non è polemico, apologetico, controversistico. Il nuovo modo di legare un dogma, una verità, un valore cristiano ai dati biblici. La seconda relazione di domani mattina, quindi la portiamo domani mattina, dovrebbe affrontare, come è detto nelle note che sono state presentate a ciascuno, il tema del trapasso dall'era biblica all'era storica, che ha fatto veramente nascere quasi come una novità il tema del papato. Vedere se c'è un rapporto di continuità, come si spiega questo emergere del discorso di un papa, di una sede romana concreta che si rapporta alle altre chiese, a tutta la cristianità, rivendicando il senso del primato. Soprattutto qui bisognerà cercare di scoprire quali fattori storici hanno condizionato in positivo o eventualmente in negativo questa efflorescenza, in modo da presentarla non contro la Bibbia, ma in coerenza con la Bibbia. Comunque qui probabilmente ci sono grossi nodi storici. Io penso che forse questa sarà la parte che dovrà concentrare di più la nostra attenzione. Ma siccome il dogma del primato, non so se deborderemo per entrare anche in quello della infallibilità direttamente, adesso non pregiudico perché non ho visto la relazione del professor Pottmeyer, ma comunque a noi ci interessa sostanzialmente il tema del primato. Siccome questo dogma è stato fissato, formulato nel Vaticano I, e c'è tutta una discussione storica sul senso di questo concilio, sulla sua recezione, che è stata giudicata maggiorativa del senso profondo di questo dogma, e siccome si potrebbe forse pensare nel dialogo ecumenico almeno a un processo di nuova recezione o di rirecezione del Vaticano I, è chiaro che questo valore, questo fatto, evento storico, deve essere preso di petto con particolare attenzione, ed ha la seconda relazione domani mattina. Ecco le tre grandi relazioni. Al pomeriggio riserviamo il discorso, diremo, di fruttificazione. Allora chiederemo a Don Valentini di aiutarci a riscoprire la metodologia di fondo che soggiace a tutto il dialogo ecumenico su questo tema particolare. E quindi praticamente non è che io questa quarta relazione la stacchi dalle tre precedenti, ma la considero una relazione più specificatamente, diremo, di teologia dogmatica, o meglio sistematica, e dovrebbe tener conto di tutti i risultati delle prime tre. Eventualmente lui lo farà per rapporto al già detto, al già fatto, al già sperimentato a livello ecumenico, quindi praticamente non terrà conto chiaramente in maniera diretta dei primi tre relatori, ma dovremo noi aiutare questa relazione a situarsi non soltanto per rapporto a tutto il dialogo ecumenico, ma anche per rapporto a queste tre dimensioni che noi affronteremo. E quindi appoggeremo a questa terza relazione del pomeriggio il nostro lavoro con la tavola rotonda, che ancora non ho individuato, ma certamente nella sua formalità, ma certamente dovrà continuare a espandere quel discorso che dovrebbe fruttificare nella relazione Valentini sulla nuova metodologia teologica in rapporto a questo dogma. La preciseremo insieme, tra stasera e domani mattina. Comunque io penso che questa sia domani pomeriggio, e questa relazione, questa tavola rotonda, sia un momento decisivo. E lo dico anche schiettamente perché probabilmente la teologia ecumenica è ancora tutta da fare, cioè sono pochissimi quelli che sono entrati nella teologia, lo dico sconfortato, direi quasi umiliato, in rapporto alle osservazioni che il Santo Ufficio ha mandato, ha pubblicato sull'Osservatore Romano del 6 maggio dell'altro giorno, in relazione ai dialoghi ecumenici già realizzati tra la Chiesa Cattolica, il Cattolicesimo e l'Anglicanesimo, si è rimasti, penso, quasi tutti i teologi sconcertati e sconfortati nel vedere come la teologia ecumenica sia assente, diremmo, nella maniera più radicale, a tutti i livelli. E mi permetto qui proprio di farmi, anche se non ho letto, ho sentito solo una nota che ha scritto padre Congar su Le Monde, che io spero venga ritracciata e spero venga pubblicata, dove veramente anche lui confessa questo suo disagio di fronte a un processo dove si vede chiaramente che lo stile, il metodo, la teologia ecumenica non sembra diventare un pane quotidiano della teologia cattolica. Ora qui io penso che noi dobbiamo prenderci un po' la nostra responsabilità. L'ecumenismo è ancora un fatto di elite, di vertici, di pochissimi. A livello di popolo di Dio si sta muovendo moltissimo anche in Italia, diciamolo, sono molto più avanti di noi teologi certi gruppi, non spavaldi, ma gruppi seri di ecumenismo in Italia. E a livello di teologi, di pastori, c'è ancora una profonda inadeguatezza ai dettati stessi del concilio e alle piste stesse del dialogo ecumenico. Per cui quella nota dell'Osservatore Romano è una nota che, diciamo, della Santo Ufficio, praticamente, che squalifica un po' tutti i dialoghi ecumenici, non soltanto quello con gli anglicani, ma anche quello di Lima, anche quello, diremmo, con tutti i ricordi. Allora, da questo punto di vista, è una mia impressione, la dico così brutalmente, per suggestionare un po' anche la nostra assemblea e capire che dobbiamo fare qualche cosa, come teologi. Dobbiamo entrare in un processo dove finalmente deve diventare nostro impegno assumere il Vaticano II, almeno in quelle direttive che già il segretariato romano, che viene quasi surclassato, superato, meglio, tirato indietro dallo stesso Santo Ufficio. Cioè non si tratta solo di una teologia mia o di qualcuno degli spregiudicati, si tratta della stessa teologia che guida tutto il cammino ecumenico elaborato e maturato dal Vaticano, dal segretariato romano. Ecco perché ritengo anche attuale, importante questo. Qualcuno mi ha detto, succede sempre così, sono pochissimi i teologi che si interessano di ecumenismo. Non vorrei, mi hanno detto uno, che venissero anche qui a Trento, nella città del Concilio di Trento, alcuni teologi quali non si interessano mai di ecumenismo, poi vengono qui per curiosità, per vedere se c'è qualche bella novità e magari per magari dire all'ombra di una conferenza di un'altra, ma queste idee non sono esatte, non sono, cioè praticamente non vengono per entrare dentro a uno sforzo che dobbiamo veramente fare tutti. Lo dico appassionatamente, come teologi abbiamo una grande responsabilità di diffondere nella Chiesa uno stile di fare teologia che tenga conto almeno di ciò che è stato acquisito. Cercheremo però di depurarlo. Non credo che tutto ciò che è stato realizzato, è chiaro, sia a livello di scienza biblica, di scienza storica, di scienza di critica del Vaticano I o di metodologia, sia puro, purissimo. Qui non ho speso queste parole per dire diventiamo tutti aperti, non critichiamo niente, eccetera, ma vorrei veramente che da questo nostro incontro nascesse in noi almeno uno sforzo di serenamente affrontare la metodologia teologica, perché in questo problema si decide anche una sorta di cammino teologico ecumenico di tutta la Chiesa. Ecco, con questa gioiosa speranza, sofferta speranza, io do la parola adesso al nostro carissimo Don Ghiberti perché ci illustri quello che lui ha scoperto indagando sui dialoghi ecumenici in tema di lettura biblica dei passi che riguardano il primato. Ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto e dichiaro subito che sono sicuro che non risponderò alle attese che sono state enunciate da Monsignor Sartori, però spero che almeno ci possa essere un inizio di discorso sulla pista che adesso proverò a cominciare a tracciare. Primo problema, come procedere con l'esposizione di alcune notevoli prese di posizione di questi ultimi anni, oppure con una teoria sullo statuto esegetico della questione. Dovrebbe essere un po' di tutte e due, e sarà molto poco di tutti e due, comunque facciamo un tentativo a partire dalla seconda prospettiva, e cioè dallo statuto esegetico della questione. Siamo evidentemente non in un'analisi limitata a un brano, una sezione o comunque un testo omogeneo. Potremmo fare la teoria, se così fosse, della interpretazione con l'applicazione di una tecnica complessa ma abbastanza chiara, come ne abbiamo già avuto un esempio in questa sede nell'incontro di 3 anni fa. Abbiamo invece un tema biblico che trova nutrimento in una quantità di passi eterogenei. Si potrebbe formulare la richiesta di applicare a ogni passo tutto il procedimento metodologico. È un'impresa che spaventa, perché i passi, sì, non sono moltissimi, ma sono molto impegnativi. La difficoltà poi è aumentata dal fatto che il discorso su Pietro non si regge puramente su quanto dicono i passi che parlano di Pietro, ma anche su un pensiero e un insegnamento diffuso in altri contesti. Si tratta infatti di un tema molto complesso, parte da una esperienza storicamente collocata nella vita terrena di Gesù e prolungata dopo la morte di questi, e si qualifica per una teologia presente nelle cose e intesa dagli autori che hanno raccontato queste cose o comunque hanno riferito qualche cosa di essa. Prendiamo anzitutto coscienza dei brani biblici che ci interessano e delle voci probabilmente più importanti nel dialogo contemporaneo. E sarà un primo contatto molto veloce. I brani biblici. Di Pietro si parla in punti diversi della letteratura neotestamentaria. Nessun altro personaggio, fra quanti hanno accompagnato Gesù e hanno svolto mansioni di responsabilità nella Chiesa primitiva, ha interessato un ventaglio così vasto di testimoni, fra quanti hanno lasciato propri ricordi nel corpus di scritti neotestamentario. Se ne parla negli scritti più antichi risalenti a Paolo, è il caso di Galati e Prima Corinzi, composti attorno al 55, e in cui sono riportati i nomi di Pietro e di Cefa. Viene poi il blocco dei sinottici e dell'opera lucana, che insieme costituiscono la fonte più ricca di informazione sull'apostolo. Segue il corpo pietrino, che costituisce un problema a sé, perché contiene certamente notizie su Pietro, ma di difficile lettura. Del corpus giovanneo ci interessa il Vangelo, che si pone sulla scia dei primi Vangeli, aggiungendo però quella specie di teologumenon che è il rapporto fra Pietro e il diletto. Si può discutere se di Pietro ci sia un cenno anche nell'Apocalisse, in modo particolare al capitolo 11. Può essere curiosa la verifica degli autori neotestamentari che non parlano del nostro personaggio. Pietro è assente nelle Deuteropaoline, nel Corpus Catholicum, ad eccezione delle 2 lettere che si presentano sotto il suo nome, e forse, dicevamo prima, nell'Apocalisse, però con riserva per questa voce. Se poi portiamo l'inchiesta all'interno delle tradizioni evangeliche, constatiamo che Pietro è assente nella fonte Q ed è invece conosciuto dalla triplice tradizione e dalle tradizioni semplici dei singoli evangelisti, soprattutto i grandi Vangeli. Ogni redazione manifesta poi proprie sfumature nell'interesse verso il primo dei discepoli. Io esaurirei con questo il cenno al testo del Nuovo Testamento. Le voci che si sono pronunciate su questo problema. Il destino di Pietro, figura viva e allo stesso tempo stranamente misteriosa, passa dalla storia della composizione neotestamentaria alla storia della Chiesa, di cui la prima evidentemente è parte. Penso che nessuna figura del periodo neotestamentario si interessi con tanta continuità alla letteratura cristiana dei secoli, assai probabilmente nemmeno di Paolo. In certi periodi di questo interesse si accentua soprattutto l'aspetto controversistico. Tutto sommato, Pietro non è stato un compagno riposante nel cammino della cristianità. Ma la sua presenza e il suo mistero sono stati stimolo alla composizione di uno dei capitoli più interessanti dell'esegesi. Difficilmente si potrà fare una panoramica adeguata di quanto controversistica e teologia hanno detto e scritto di lui, ma credo che si possa convenire sul giudizio che pronuncia sentenza di validità verso tutti questi interventi, tanto più grande quanto più è stato mantenuto il contatto autentico con la lettera e lo spirito della testimonianza neotestamentaria. In modo particolare, il lavoro esplicitamente esegetico ha visto l'applicazione o l'applicabilità di tutti i metodi di ricerca, rincorsa dei sensi, confronto dei testi nei tentativi concordistici, analisi filologica, analisi letteraria, ricorso alla storia delle religioni, tentativi di sintesi teologica i più disparati, analisi storica, ultimamente forse, dico forse perché avevo visto qualche cosa, non sono più riuscito a trovare la documentazione, se qualcuno mi saprà dire, soprattutto di qualche tentativo di lettura psicanalitica della vicenda di Pietro, mi farebbe piacere. Forse anche tentativi di lettura strutturale psicoanalitica, oltre, ben inteso, alle letture sociologiche e materialiste. Una lettura ha preso da alcuni secoli a questa parte un posto di rilievo, quella controversistica. Non si tratta propriamente di un metodo esegetico, bensì di un clima che caratterizza e condiziona questa ricerca. E la condiziona non sempre positivamente, però anche la stimola. A esso dobbiamo tanti momenti poco simpatici in questo lavoro e anche il raggiungimento di qualche buon risultato. In questi ultimi anni alla controversistica si è affiancato, fino quasi a sostituirla, almeno nei casi migliori, il dialogo ecumenico. È stato un miglioramento qualitativo incalcolabile, anche se lo statuto del dialogo è distinto con chiarezza da quello della controversia, assai più nella teoria che non nelle persone che ne sono protagoniste, e forse lo sperimenteremo ancora una volta in questo nostro incontro, se appena terremo desta l'analisi man mano delle nostre preoccupazioni e precomprensioni. Il mio contributo svolgerà prevalentemente il compito di sensibilizzazione e introduzione alla discussione, evidenziando alcuni momenti tipici verificatisi negli ultimi 30 anni e in modo particolare ritornando sul primo di questi momenti. Nel 1952 vede la luce un'opera fortunata e ricca di pregi che non è solo esegetica, almeno nel senso più corrente del termine, se la si vuole dire tecnica, ma che nel momento più propriamente esegetico conquista i migliori titoli di merito, il Petrus di Oscar Kuhlmann. si prefigge tra l'altro la verifica di un consensus degli esegeti sulla questione ecclesiologica in generale e pietrina in particolare, come qualche esegeta, per esempio padre Brown di Friburgo, aveva pensato di poter segnalare negli anni precedenti. Da allora, da Kuhlmann, la preoccupazione di verificare l'esistenza di un eventuale consensus e i limiti della sua reale estensione è stata sempre presente. L'aspetto ecumenico di tutta la vicenda è rappresentato proprio da questa preoccupazione di una verifica di consensus, che non è una preoccupazione oziosa. Essa ha generato una capacità di ascolto reciproco notevole, soprattutto se si pensa alla portata ecclesiologica di una questione divenuta così scottante nell'ultimo mezzo millennio. L'intervento di Kuhlmann diede la stura a molte prese di posizione. In Italia se ne è avuto un esempio in una ragguardevole edizione comparsa a Bologna presso il Mulino. Accanto al lavoro di Kuhlmann sono riportati un notevole studio del cattolico Charles Journet, il primato di Pietro nella prospettiva protestante e nella prospettiva cattolica, e i più brevi interventi degli ortodossi Nicolas Afanasiev, la chiesa che presiede nell'amore, Nicolas Coulomzin, il posto di Pietro nella chiesa primitiva, Jean Mayendorf, San Pietro, il suo primato e la sua successione nella teologia bizantina, e Alexandra Schneemann, la nozione di primato nell'ecclesiologia ortodossa. Poteva essere auspicabile il servizio di rassegne che facessero il punto di tanto in tanto sull'andamento della discussione e i risultati del confronto. Ne conosco una molto ampia e articolata di Giuseppe Maffei, il dialogo ecumenico sulla successione nell'opera di Oscar Kuhlmann 1952-1972. Ha tutto lo stile di una tesi di laurea, lo farebbe anche pensare l'editrice, Libreria Editrice Salesiana di Roma, però sono assenti accenni di qualunque tipo a questo fatto, come pure all'anno di pubblicazione. Di Kuhlmann non è preso in considerazione da Maffei solo il Petrus, ma anche la tradizione. Gli interlocutori di Kuhlmann sono solo di parte cattolica, con particolare attenzione a Antonio Maria Javierre, penso che fosse il doctor Vater di questa tesi, e nonostante il grande impegno si notano ancora delle lacune, che vuol dire che a 20 anni di distanza la letteratura su questo problema era già molto difficile da verificare. Le voci protestanti riportate nella bibliografia sono molto poche, per questo campo si richiederebbe ancora molto lavoro. A mia conoscenza esiste solo la rassegna di Franz Obrist, cattolico, limitata all'interpretazione della Primatstelle, Matteo 16, 18 e seguente, da parte della teologia protestante degli anni 30, degli ultimi 30 anni, cioè dal 1930 al 1960, il libro è del 61. È il frutto di un lavoro di tesi anche questo, condotto all'Università Gregoriana, discusso nel 56, ripreso per il quinquennio successivo, con le sue due parti, la questione dell'autenticità e il senso della parola di Pietro si presenta come un contributo molto prezioso e mostra anche i suoi limiti, si capisce, nei confronti della discussione dei 20 anni successivi. Si può immaginare quanto sarebbe interessante e utile per noi un'analoga messa a punto sulle posizioni recenti espresse dal protestantesimo sui dati neotestamentari riguardante Pietro, condotta oggi da un autore protestante, soprattutto se fosse esegeta di professione, ma io non conosco un caso del genere. Intanto continuava intensa la ricerca, espressa in articoli sparsi e anche in opere in collaborazione, come il Zum Thema Petrus Amt und Papstum del 1970, in cui Felix Christ rivede e ripropone le tesi del suo maestro Oscar Kuhlmann, mentre Wolfgang Trilling concentra in 10 pagine preziose considerazioni. Sono forse fra le pagine più azzeccate, a cui ci si rifà continuamente come una specie di statuto di questa ricerca, sulla questione se la dottrina cattolica del primato corrisponda alla scrittura, sia Schrift che Messe, e proponendo poi una verifica a proposito di Matteo 16, 17, 19. mi si permetta anche di ricordare la nostra settimana biblica del 67 e il conseguente grosso volume San Pietro comparso, no, del 66 e il conseguente volume comparso nel 67, e non spetta a me pronunciarne un giudizio. Esternamente l'opera si presenta come una notevole, ma quanto a quantità, raccolta di contributi, soprattutto esegetici, sul tema Pietro, anche se accusa l'usura del tempo e l'inconveniente di una certa disorganicità che le toglie un po' l'efficacia incisiva. Per esempio, nessun contributo si è misurato esplicitamente sull'opera di Kuhlmann e neppure sul problema della successione, che è tanto, come dire, scelta rinunciataria. Allo scadere del ventennio dell'opera di Kuhlmann ha origine un lavoro che si tradurrà in un libro di non grande mole ma prezioso, guidato dagli esegeti americani Raymond Brown, Carl Donfried, John Roiman. Mentre l'opera di Kuhlmann era scritta in prospettiva di dialogo, il Peter americano è già il frutto di un dialogo realizzato all'insegna della buona volontà e anche dell'efficienza. Ancora frutto di dialogo, condotto alla tedesca, è il Papsttumers Ökumenische Frage, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Universitätsinstitute. Lo spettro degli interessi supera il puro campo esegetico, ma le relazioni di Erich Grässer e Josef Blank sono accompagnate da una discussione tenuta nella stessa sede che accolse le relazioni, a cui parteciparono Schweitzer, Nisioti, Sprunner, Jüngel, Pesch, Kühn, Geisser, Stirnimann, Moltmann, Ott, Schlink. Uno degli interlocutori dell'ultima tornata di dialogo, Rudolf Pesch, ha concluso nello stesso anno della precedente pubblicazione, però la data di apparizione è il 1980, un'opera notevole, Simon Petrus, Geschichte und geschichtliche Bedeutung des ersten Jüngers Jesu Christi. Sfrutta questo libro una serie di lavori preparatori, come il commentario al Vangelo di Marco e una quantità di articoli nella sua bibliografia. Ho incontrato il nome di questo prolifico professore di Freiburg non meno di 20 volte. A differenza di Kuhlmann, Pesch pone la distinzione non fra il discepolo, l'apostolo e il martire, e poi fra il problema esegetico e il problema teologico-dogmatico, bensì fra la storia di Simon Pietro e l'evoluzione della figura di Pietro e del significato di questi per la Chiesa universale. Al primato dei Vescovi Romani è dedicato l'ultima parte dell'opera, ridotta però pochissime pagine. È indicativo invece anche solo il titolo della prima parte, che però anch'essa è molto breve, Il Simone della storia e il Pietro della fede, che è un riportare il discorso su Pietro nell'alveo del discorso su Gesù. Non ho documentazione sufficiente per un gruppo di lavoro in lingua tedesca, ma con collaboratori di varia provenienza, che si occupa del frucatolicismus. Penso che i nostri problemi vengano trattati qualche volta anche in quel gremio, da quel poco che mi diceva Mauro Pesce, che ne fa parte, che si è costituito qualche anno fa, questo gremio, ed è tuttora, a quanto ne so, in attività. Vorrei procedere adesso a una rilettura dell'opera di Oscar Kuhlmann per verificare consistenza e limiti di quel consensus ecumenico e porre poi alcune considerazioni sul momento presente. Kuhlmann segue il cammino di Pietro nelle sue caratteristiche, secondo le quali ci è stato tramandato, parte dal nome Simon, un nome greco dato originariamente a colui che sarà più tardi Pietro, oppure nome aramaico. Il nome gli è dato da Gesù e questo interessa, almeno nella visione di Kuhlmann. Gesù a un dato momento lo spiega con l'intenzione di fondare la propria chiesa su di lui, denominato roccia. Adesso le tre parti, il discepolo. Il discepolo ha sempre, secondo tutta la tradizione evangelica, una posizione di rilievo in mezzo agli altri membri del gruppo. È loro portavoce e Gesù gli affida il compito di confermare i fratelli. Non vi si oppone la figura parallela del diletto, del discepolo amato da Gesù, presso Giovanni, ha una sua funzione, ma non di oscurare Pietro. Nei Vangeli però Pietro non è capo, bensì solo portavoce e rappresentante degli altri discepoli. L'apostolo è il punto dove incomincia il grosso della discussione, delle verifiche da parte sua e poi delle verifiche da parte dei suoi recensori. Dopo la partenza di Gesù, da rappresentante diventa capo, incaricato della direzione della comunità dei credenti a Gerusalemme. E questo si verifica in Gerusalemme e nel campo missionario della Samaria, perché ogni attività missionaria è considerata dipendente dalla comunità gerusalemitana. Parole di Kuhlmann che sono anch'esse molto importanti perché sono tematiche. Infatti questo principio reggerà tutta la ricostruzione della funzione di Pietro, anche quando vi sarà una divisione di competenze. Da capo diventa missionario, missionario poi soltanto più fra gli israeliti, a lui viene affidata questa missione, però in dipendenza da chi guida la comunità di Gerusalemme, mentre la missione tra i pagani è affidata a Paolo, il riferimento è d'obbligo a Galati 2,7. Un primo rilievo può essere questo: non è chiaro perché Kuhlmann attribuisca alternativamente la direzione dell'attività missionaria ora al capo Pietro, ora alla comunità di Gerusalemme. Paolo, in Galati 1,18 e seguenti, mostra di avere conosciuto la situazione di preminenza di Pietro a Gerusalemme. Dice Kuhlmann: se dunque Paolo voleva conoscere proprio Pietro, deve essere stato perché egli sapeva, come tutti i convertiti, che era lui il capo della comunità madre di Gerusalemme, anche se naturalmente questa direzione non aveva ancora il carattere dell'episcopato monarchico posteriore. Troppo grande era infatti l'autorità dei suoi colleghi del gruppo apostolico e già pure quella di Giacomo. Però a poco Pietro comprende che il suo vero compito di apostolo, anzi il suo carisma, era quello dell'attività missionaria piuttosto che quello della direzione ecclesiastica. Con tanta simpatia Kuhlmann segue questa evoluzione, non si capisce bene se la simpatia guida la lettura o la lettura suscita la simpatia. A questa scelta Pietro è favorito e sospinto. È sì una tendenza sua, personale, ma è anche una costrizione provocata dalle circostanze che sono divenute contrarie alla sua permanenza a Gerusalemme. È sospinto Pietro dal suo atteggiamento personale, libero e aperto, assai più che quello di Giacomo. Egli fu perciò costretto a lasciare Gerusalemme, a preferire ambienti nei quali la maniera di pensare di Paolo era condivisa. Pietro stesso fu assai più vicino a Paolo di quanto non si riconosca solitamente, ed è un'altra delle tesi di Kuhlmann. Tutto ciò porta come conseguenza che la funzione di guida viene assunta alla partenza di Pietro da Giacomo. Galati 2,1 e seguenti, parlando del concilio apostolico, ne dà la conferma anche per quello che fu uno dei momenti più solenni della prima generazione cristiana. E questa è nuovamente una tesi fondamentale da cui dipende e a cui si rifà in continuazione lo sviluppo della presentazione di Kuhlmann e che è solitissimo sentire in ambiente non cattolico nel dialogo attuale, data come una lettura certa di quei fatti. Giacomo, l'arbitro del Concilio di Gerusalemme. Anche nella missione giudaico-cristiana Pietro dipende da Gerusalemme. Galati 2,12 mostra Pietro intimidito di fronte a quelli di Giacomo. Molto più libero da Gerusalemme è invece Paolo, cui è affidata la missione pagano-cristiana, legato a Gerusalemme soltanto dall'impegno della solidarietà nella colletta. Il conflitto di Galati 2,11 e seguenti mostra comunque che ad Antiochia non esiste primato di Pietro rispetto a Paolo. Il problema del mandato apostolico è risolto in riferimento a una designazione ufficiale rivolta a Pietro da Gesù già durante la sua vita terrena, e poi anche a un mandato conferitogli dal risorto. Pietro è stato il primo a vedere il Signore risorto, dice Kuhlmann, il che almeno nei primi tempi deve avere contribuito fortemente a determinare la sua posizione autorevole in seno alla comunità delle origini. Una posizione molto comunemente sostenuta, con sfumature appena di interpretazione. Bisogna però anche aggiungere, dice Kuhlmann, che in Giovanni 21, appunto un incontro con il risorto, al compito di pascere le pecore si collega pure la predizione del martirio di Pietro. Ciò significa che il mandato conferito all'apostolo Pietro è cronologicamente limitato al periodo della fondazione della Chiesa. La concezione teologica dell'apostolo è identificata nella sua vicinanza alle posizioni di Paolo, nel suo universalismo, nella comprensione della morte di Cristo quale morte vicaria e espiatrice. Le informazioni sono desunte dagli Atti e dalla Prima di Pietro. Era la parte, mi sembra, per noi più stimolante. Viene l'ultima, il martire. Ha dato la sua testimonianza a Roma, non vi si trovava quando Paolo scrisse la lettera ai Romani, vi ci si recò come capo della missione giudeo-cristiana, ne aveva il diritto, d'altra parte Roma comincia a essere cristiana tranne ai giudei, e anche se è comunità mista, Paolo ha il principio di non interferire nelle comunità che in partenza sono giudeo-cristiane, fa una parziale eccezione per Roma, ma sempre riconoscendo la precedenza di altri, anche se non dice chi. La migliore conferma a questa tesi, che però è ritenuta solo probabile, della venuta a Roma, della testimonianza data a Roma, è offerta dalla prima lettera di Pietro 5,13. Il fatto del martirio, invece, è da accettare sulla base, il fatto che sia morto martire, non che sia morto martire a Roma, di Giovanni 21,18, prima Pietro 5,1. Per la località, qualche indizio è offerto da Apocalisse 11,3, però qui abbiamo naturalmente tutto l'aspetto aleatorio di un ricorso di questo genere. Bisognerebbe che Pietro e Paolo fossero i due testimoni, bisognerebbe che la gran città fosse Roma. Oltre all'Apocalisse c'è soprattutto, Kuhlmann lo ritiene, ritiene la testimonianza principale, prima Clemente 5, dove si parla delle maggiori e giuste colonne, dei gloriosi apostoli, Pietro e Paolo, che hanno testimoniato. Nel capitolo 6 si dice che queste cose sono accadute fra noi e sono gli inconvenienti della divisione, dell'invidia e della gelosia che dilaniano la Chiesa di Roma. Dunque, sarebbe probabile che questo fosse accaduto anche quanto a uno degli effetti principali per Pietro e per Paolo. Il tempo fu probabilmente l'epoca della persecuzione neroniana. E poi cita ancora Ignazio la lettera ai Romani 4,3. Kuhlmann conclude che, anche se l'epoca neotestamentaria non offre attestazioni esplicite, compaiono soltanto dopo il 150, anzi piuttosto verso il 200, sia per la fine violenta di Pietro, sia per il suo soggiorno romano, sia per la sua morte nella capitale dell'impero, questi tre elementi sono da giudicare come fatti relativamente accertati nel quadro della Chiesa antica. E qui ci stacchiamo dal resto della documentazione raccolta e analizzata, soprattutto la parte archeologica, perché non interessa il nostro campo di ricerca. Ci ricongiungiamo invece con Kuhlmann quando egli procede alla lunga analisi di Matteo 16, 17, 19. Si sarebbe detto che questo passo all'inizio ne aveva sufficienza di una trattazione breve proporzionata agli altri, invece poi dedica una sezione molto sviluppata. Questa analisi è condotta in due tempi. In primo luogo affronta il problema esegetico, poi quello teologico. Il primo problema riguarda l'accostamento puro e semplice del testo, il secondo la recezione nella teoria e nella vita della Chiesa in riferimento all'istituto del papato. Si tratta di una distinzione abbastanza chiara, di comodo quantomeno, statutariamente forse non proprio adeguata. La storia dell'esegesi del brano evidenzia un sorgere di interesse non molto antico, abbastanza sfocato all'inizio e in seguito influenzato da preoccupazioni polemiche. L'applicazione del metodo storico-critico registra una diffusa opinione sulla inautenticità del brano. L'opinione si capovolge attorno al 1940, quando studi qualificati recuperano il contenuto del concetto di ecclesia al tempo e all'ambiente stesso di Gesù. Subito però riparte la discussione, e proprio su questo tema, per opera di Rudolf Bultmann e di Werner Georg Kümmel, nel 1950 i grandi nomi della esegesi neotestamentaria protestante si dividevano in misura pressoché uguale nel sostenere parte la autenticità, parte la inautenticità del passo. L'esegesi cattolica era invece schierata per l'autenticità, ma eludeva il fondamentale problema del principio di successione, appellando alla controprova della storia successiva dell'istituto Chiesa. E credo che sia uno dei punti in cui il dialogo ancora oggi ha bisogno di chiarimento. Kuhlmann stesso si pronuncia a favore della autenticità perché è troppo evidente il carattere semitico del nostro testo. Il gioco di parole, Pietro pietra, si spiega bene solo in aramaico, bariona, carne e sangue, legare e sciogliere. La pericope matteana è però di natura composita, consta della scena della confessione comune pure a Marco e Luca. Marco ne dà la versione più originale, che trova la sua punta nella incomprensione dei discepoli, anche di Pietro, che ha confessato quando Gesù presenta però la sua missione come quella del Messia sofferente, non capisce più. Dunque, consta della scena della confessione e poi consta dei versetti 17 e 19. Questi provengono forse dal ricordo di un'altra confessione di Pietro che fu origine del suo nuovo nome, Roccia. E questo è l'aspetto più personale, penso meno seguito anche, della posizione di Kuhlmann a questo riguardo. I versetti 17, 18 e forse 19a proverrebbero da antica tradizione orale che Matteo giustappone alla prima per correggere la denuncia di Pietro quale strumento di Satana, con il riconoscimento che egli è strumento della rivelazione di Dio. E invece è un recupero alla simpatia di questo personaggio, evidentemente per la sua importanza. Nota ipotesi di Kuhlmann è la identificazione del contesto originario in cui sarebbe avvenuta la scena trasmessa dalla seconda tradizione, cioè la scena delle parole di investitura, l'identificazione di quel contesto nello svolgimento dell'ultima cena e non in un'apparizione del risorto e in polemica soprattutto in confronto nella seconda edizione con la proposta fatta da Vögtle, Messias Verheißung und Messias Geheimnis. E il suo argomento principale è l'analogia che Kuhlmann vede fra Matteo 16, 17, 18 e Luca 22, 31. Però rimanda anche, fa un gioco abbastanza interessante di confronti, costruendo una specie di triangolo, Luca 22, 31, Giovanni 6, 66 e seguenti, la confessione giovannea, Giovanni 21, 15 seguenti e naturalmente Matteo. Il contenuto essenziale di quella tradizione si può descrivere così: all'ultima cena o subito dopo, Pietro dice a Gesù, tu sei il figlio di Dio. Così si spiegherebbe anche che proprio alla fine della vita di Gesù ci sia una comprensione così complessa, figlio di Dio, mentre invece nella prima confessione c'è soltanto il contenuto del titolo messianico. Tu sei il figlio di Dio e fa voto di seguirlo fino alla morte. Gesù gli risponde che Dio gli ha concesso questa rivelazione, Dio. E gli predice il suo rinnegamento, aggiungendo però al tempo stesso che egli avrà da svolgere un compito particolare in seno alla comunità dei discepoli, la quale cadrà nella sua stessa tentazione. La possibilità che questa tradizione risalga al Gesù terreno non è impugnata, rileva Kuhlmann, sul piano della critica letteraria, bensì, traduco in termini miei, ma insomma, bensì sul piano della probabilità storica. Non è verosimile, e qui interviene un altro degli elementi che sono certamente condizionanti nel discorso di interpretazione del fatto, Pietro, non è verosimile che Gesù abbia parlato di Chiesa perché ciò richiederebbe coscienza messianica. Per Bultmann, ad esempio, questa obiezione è determinante. Gesù non può aver avuto coscienza messianica, dunque tutto questo contenuto nella sua rivelazione non ci può essere stato. È dunque all'interpretazione generale dell'iter storico di Gesù che si deve tornare per orientare la discussione in modo soddisfacente. Kuhlmann ritiene che Gesù abbia posto il fondamento di una comunità messianica già nel corso della sua esistenza terrena, dunque si dissocia da quella posizione, sarebbe anticipazione del regno di Dio che incomincia a realizzarsi anche nei dodici, il gruppo ristretto e nei discepoli, eccetera. E ritiene che Gesù abbia pensato che anche dopo la sua morte questo eone di preparazione del regno sarebbe durato, anche se per breve tempo, e che questa comunità si sarebbe edificata prima del giungere della fine. Il destinatario delle parole di Gesù, la roccia, non è soltanto la fede di Pietro, interpretazione diffusa tra i riformatori, ma non sarebbe neppure la personalità giuridica dell'autorità di Pietro, continuante nei successori. Quindi non accetta nemmeno la posizione cattolica, sarebbe invece la persona irrepetibile che pone il fondamento in quel tempo iniziale. Ne vede la conferma in Efesini 2:20, Romani 15:20, Prima Corinzi 3:10, Galati 2:9, Apocalisse 21:14, dove si parla sempre di fondamento e Kuhlmann interpreta fondamento iniziale. Agli apostoli i vescovi succedono cronologicamente, ma con funzione essenzialmente differente, parole di Kuhlmann. Se la funzione di apostolo si arresta con l'esistenza terrena di Pietro, quella di capo si prolunga nella storia della Chiesa. Ma capo di chi? La Chiesa universale non si identifica più, come nei primi tempi, con una sola comunità. E poi, se una Chiesa volesse pretendere una posizione predominante, potrebbe trattarsi solo di Gerusalemme, ma neppure Gerusalemme può essere portatrice duratura di una successione nella direzione generale della Chiesa. Dunque, nessuna delle ipotesi resta aperta e bisogna rinunciare a questa spiegazione. Quanto è poi accaduto, che cioè dall'inizio del secondo secolo Roma ha effettivamente avuto una spiccata funzione direttiva in seno alla cristianità del tempo, non garantisce di per sé il primato di quella sede episcopale, perché Matteo 16:17 seguenti non permette di porre il problema del primato di successori che si ricolleghino a una successione episcopale a catena. E perché non può essere ricondotta all'epoca apostolica la linea tracciata dal primato esercitato posteriormente dalla comunità di Roma. È vero, la Chiesa deve essere visibile nella storia, ma Chiesa visibile vi è stata e vi è in altri centri al di fuori della Chiesa romana. Le persone degli apostoli si raggiungono oggi negli scritti del Nuovo Testamento, nell'unico testo neotestamentario che parla espressamente del rapporto degli apostoli con la Chiesa che a loro seguirà, e cioè Giovanni 17:20, nella cosiddetta preghiera sacerdotale, il prolungarsi dell'opera degli apostoli non è legato al principio di successione, bensì appunto alla parola degli apostoli, coloro che credono mediante la loro parola. Cuman stesso, alla fine della sua opera, rimanda a un'opera immediatamente successiva, a Petrus, la Tradition Problème Exégétique, Historique et Théologique, comparso in realtà nel 1953, cioè un anno dopo Petrus, poi tradotto in tedesco nel 1954. In essa, tradotto o pubblicato contemporaneamente, dicono che essendo bilingue le sue pubblicazioni siano ugualmente originali nell'una e nell'altra lingua. In essa, egli vuole rispondere all'obiezione cattolica secondo la quale la scrittura è incapace di collocarci in presenza del Cristo, come fa invece il magistero infallibile del successore degli apostoli, attraverso il quale opera, elaborando la tradizione, lo Spirito Santo. Secondo Kuhlmann, invece, il Nuovo Testamento attesta che lo stesso Kyrios è presente nella tradizione apostolica e in conseguenza negli scritti in cui è rimasta fissata. Essi dunque collocano questi scritti il lettore direttamente di fronte a Cristo. La tradizione ecclesiastica è subordinata alla tradizione apostolica e al Nuovo Testamento. Presenza del Kyrios nella scrittura e presenza dello Spirito nel lettore che crede sono le parole conclusive di Kuhlmann a quel suo ultimo scritto, ultimo in questa serie. Quale può essere la reazione a queste tesi? Tralasciamo il riconoscimento dello stile autenticamente benevolo, di un discorso veramente in cammino, lo sforzo che Kuhlmann fa di muoversi lui stesso. È una vera riscoperta di Pietro, elevato sul piedestallo dei suoi valori personali, dono di Cristo, in parte non rilevati fin qui. Purtroppo nella simpatia dimostrata a Pietro con l'affermazione della sua vicinanza a Paolo, l'argomentazione fa un po' difetto. Comunque, tralasciamo questo discorso che tra l'altro ha fatto tanto piacere a Kuhlmann. Le osservazioni possono essere di doppia natura. Singoli punti sul metodo, e accenno proprio soltanto a qualcuna. Osservazioni singole sono state mosse sull'attribuzione prima a Pietro, poi a Giacomo, del compito di direzione universale, o almeno nella Chiesa e missione giudeo-cristiana. È il primo passo per una dimostrazione di non necessità di successione nel piano divino. Tant'è vero che quel tipo di direzione non l'ha avuto nemmeno fino alla fine della sua vita, anzi l'ha avuto per un tempo molto breve. Ha senso pensare che un eventuale, se c'è, primato passi da Pietro a Giacomo. O primato non c'è, oppure anche chi esce da Gerusalemme lo conserva. E cosa significa missionario in opposizione a capo? Kuhlmann ricorre a tante di queste categorie e si fida di ciò che di intuitivo ci può essere nei loro concetti, salvo poi a lasciare sulla fame il lettore. Abbiamo analizzato troppo poco il rapporto tra la comunità e il capo, perché tutto sta la ragione nel fatto che Pietro esce da Gerusalemme, ma chi ha la direzione è la comunità di Gerusalemme, dunque chi è capo in Gerusalemme è anche capo di quella opera. La comunità fonte di potere è un concetto neotestamentario o è un concetto della Riforma? La discussione più sistematica si porta sul esaurimento del compito di Pietro al momento della sua morte. Kuhlmann lo afferma a più riprese, specialmente in riferimento a Giovanni XXI, ma sempre senza misurarsi a fondo con la questione, quindi lasciando l'impressione che si tratti piuttosto di un postulato gratuito. Il problema della trasmissibilità delle prerogative di Pietro ha suscitato molte prese di posizione in campo cattolico, concretizzate sul principio della successione. Ma io non so se sia il caso di richiamarne alcune. Avrei due voci fondamentali, una scelta fra le tante, non perché sia, ma è un po' più diffusa che le altre, quella di Refoulé, a proposito proprio della trasmissibilità di quelle prerogative. Già le immagini soggiacenti ai diversi testi relativi a Pietro fanno pensare che la sua funzione era trasmissibile. Pietro assimilato al maestro di palazzo, al vicario del re, e tale carica si trasmetteva. Pietro assimilato pure a Giosuè, in quanto capo della comunità, e anche tale carica veniva trasmessa. Lo stesso suggerisce, dice Refoulé, in genere il Nuovo Testamento. Pesca miracolosa di Giovanni XXI ha un valore esemplare, paradigmatico. I capi delle comunità locali fin dai tempi degli apostoli sono chiamati pastori in termini identici a quelli dell'Antico Testamento e a quelli che usa Gesù quando parla a Pietro. Così pure il potere di legare e sciogliere è trasmesso ad altri che non sono apostoli. Dunque, conclude Refoulé, il Nuovo Testamento testimonia la trasmissione di certe prerogative messianiche e una delegazione del potere di legare e sciogliere. Perciò dal punto di vista del Nuovo Testamento nulla impediva che Pietro abbia potuto anche lui trasmettere alcune delle sue prerogative. La convergenza di questi indizi è ad ogni modo degna di nota. Non solo, ma essa suggerisce una risposta nettamente affermativa. Ho l'impressione che almeno nei primi 10 anni, pur con reciproche affermazioni di cordialità, il dialogo si sia svolto un pochino tra sordi. Non so se dopo la cosa è stata superata, ma si ha l'impressione che negli ultimi anni si sia insistito un po' di meno, perlomeno, sulla sicurezza reciproca nell'affermazione, ad esempio, della chiarezza di questi dati. Chi ha svolto una inchiesta maggiormente estesa su questo problema è appunto Don Antonio Javierre, che fu rettore della Pontificia Università Salesiana e adesso è segretario della Congregazione per gli Studi, compose sotto la direzione e sotto la guida di Serfo una tesi di laurea, il tema letterario della Sucession, stampato, pubblicato poi nel 1963 a Zurigo, che è un'opera indubbiamente molto molto impegnativa, forse addirittura troppo impegnativa. Ho l'impressione che non abbia avuto l'accoglienza che l'enorme quantità di materiale accumulato in quest'opera potesse fare attendere. Kuhlmann avrebbe il torto, dice Javierre, di leggere quel testo, Matteo 16-18, senza tenere conto dell'ambiente storico-geografico in cui fu pronunciato, perciò senza percepire le risonanze che in esso dovette concretamente avere. E Javierre fa una grossa analisi nell'ambiente che può avere qualche contatto con l'ambiente neotestamentario, l'ambiente ellenistico giudaico, costata attraverso la letteratura che va dal secolo V prima di Cristo al secolo V dopo Cristo, una presenza della tematica della successione costante e universale, quanto all'ambito geografico storico, quanto agli scrittori che ne trattano e dei personaggi a cui è riferita, quanto ai contenuti umani trasmessi per successione. Il cristianesimo nascente avrebbe partecipato in pieno di tale mentalità. Evidentemente non è il caso di nemmeno fare l'elenco o l'indice di questa documentazione, ma appunto esiste. Le osservazioni sul metodo non si portano tanto sulla precomprensione, anche confessionale, di Kuhlmann, Beh, quello è evidente, perché allora bisognerebbe che cominciasse ognuno a fare l'analisi della propria. Quanto sul taglio e sulla sensibilità del suo modo di affrontare i testi. E qui è un discorso che faccio con un po' di, direi proprio di pena, ma certo un po' di freno, no? Di insicurezza, perché quasi quasi si conclude con l'attribuzione a Kuhlmann di una incompletezza di metodo di lettura biblica, di esegesi. Ora, lontano da me l'idea che Kuhlmann non sia alla page in tutto ciò che si riferisce al procedimento esegetico. Credo però che 30 anni abbiano un significato anche per Kuhlmann e che il suo stesso orientamento nei riguardi, ad esempio, del metodo della storia delle forme, dove giustamente su alcuni aspetti egli prendeva delle posizioni abbastanza critiche, l'abbia poi un po' condizionato nella applicazione degli elementi utilizzabili del metodo stesso. E quindi effettivamente credo che si possa dire che oggi tutti sarebbero contenti di possedere l'enorme carica di documentazione che è presente nelle opere di Kuhlmann, di possedere la conoscenza dei dati così come la possiede Kuhlmann, e probabilmente nessuno più procederebbe esattamente come ha proceduto Kuhlmann. La differenza dei pareri, differenziazione dei pareri avviene non più in direzione verticale, cioè cattolici da una parte, protestanti dall'altra, bensì, cioè, mi permettete, in direzione orizzontale, e cioè in ambedue i campi ci sono delle sensibilità un po' rinnovate che si affacciano, e c'è qualcuno che cammina con un passo, altri che camminano con un altro passo. Kuhlmann, ad esempio, ha la tendenza a postulare alle spalle di ogni particolare una tradizione. Certo, applica il metodo dell'analisi letteraria, ma i suoi risultati sono costantemente questi. C'è ancora, mi sembra, nonostante tutto un po' di concordismo, a causa di un certo quale rifiuta fare spazio agli interventi redazionali. Per esempio, le differenti formulazioni della confessione di Pietro, con la punta di evidenziazione che c'è in Matteo che dice il Cristo, il figlio del Dio vivente, è spiegata da Kuhlmann, lo vedevamo, no? Con il ricorso a una tradizione diversa da quella che è presente in Marco e in Luca, che parlano solo di Cristo. E questa tradizione sarebbe la spiegazione di ciò che Matteo dà con la sua nuova formulazione. Indubbiamente, anche nello studio dell'ambiente dal quale nascono le attestazioni che si riferiscono a Pietro, Kuhlmann ricerca una spiegazione che tiene conto del discorso del Sitzimleben. Si ha però l'impressione che questa ricostruzione sia sempre fatta sulla base di una interpretazione molto stretta, molto ottimistica, dal punto di vista dell'attendibilità storiografica, di tutti i dati che egli raccoglie nelle varie testimonianze evangeliche e degli atti. In quale misura si può parlare, e sto concludendo, dopo Kuhlmann e la discussione che ne è seguita, della presenza di un consenso? Ma un buon esempio sarebbe, anche soltanto, quello offerto dai ricercatori americani, i quali però proprio nelle loro conclusioni mostrano, in modo particolare nella parola con cui si accomiatano dal lettore, la consapevolezza che il tempo che è passato è servito a fare prendere coscienza della difficoltà di stabilire dei punti fermi, e in realtà se si volesse fare il confronto con Kuhlmann, si dovrebbe soltanto dire: molte delle certezze di Kuhlmann sono state ridotte al rango di eventualità, di probabilità, nuove certezze non ne propongono nessuna. Bisogna anche dire che appunto si tratta del frutto di un dialogo, e perciò loro stessi dichiarano all'inizio dell'ultimo capitolo che si sono messi d'accordo su questa conclusione come la conclusione che rispecchia maggiormente il clima comune nel loro gruppo, mentre ognuno conserva o riserve nel confronto di qualche conclusione o suggerimenti ulteriori nel confronto di punti ritenuti troppo negativi. Fatti storici che si riferiscono a Simon Pietro: durante il ministero di Gesù fu uno dei primi chiamati, ha tenuto un posto di primo piano in questo gruppo di compagni abituati e abituali e di discepoli perseveranti. È probabile che Simone abbia formulato una confessione di fede in Gesù, l'abbia fatta in termini che evocavano un'attesa generalmente diffusa in mezzo ai giudei. Si deve accordare uguale probabilità alla tesi secondo la quale Simone non ha capito Gesù, o almeno non l'ha capito completamente, e allora Gesù non ha accettato la confessione di Pietro nella maniera più totale. Poi Pietro nella chiesa primitiva, ed è qui che si vede come si muovono con circospezione. Le loro conclusioni sarebbero: Simone è stato conosciuto sotto il nome di Cefa, Pietro, probabilmente perché Gesù stesso gli aveva dato questo nome. È già una posizione molto ottimistica. Simone, Cefa, ha beneficiato di un'apparizione di Gesù risorto, probabilmente la prima fra tutte le apparizioni del risorto. Pietro fu il personaggio più importante tra i dodici a Gerusalemme nei dintorni della città. E dicendo questo ci liberiamo dal compito quasi impossibile di definire il posto che Pietro ha tenuto in rapporto a due altri personaggi che non erano del numero dei dodici, e precisamente Giacomo, fratello del Signore, e Paolo, l'apostolo. Dunque la grande questione, Giacomo, non è stata risolta, non ha raccolto delle probabilità sufficienti per essere proposta in mezzo a questo gruppo, che era un gruppo molto molto equilibrato e di veri competenti. La carriera di Pietro è stata quella di un missionario, ha svolto questo compito almeno in mezzo ai circoncisi, forse anche presso i gentili. La posizione teologica di Pietro si è probabilmente situata fra quella di Giacomo e quella di Paolo. Poi ci sono le immagini che ci offre di Pietro il Nuovo Testamento. Questa è una conclusione che tra l'altro non è recentissima, è di quasi 10 anni fa. Il libro compare in inglese nel 73, in francese poi nel 74. Le nostre osservazioni quali potrebbero essere? Ma due mi pare che siano i campi verso i quali viene attratta maggiormente l'attenzione. Primo, la necessità di una critica letteraria e storica più agguerrita. Ora, questo vale da una parte per Kuhlmann, e lo dicevo già prima, per il metodo del suo procedimento, e dall'altra parte vale altrettanto per, ma nell'altro senso, per coloro che si sono posti in seguito su questa pista di ricerca. E qui intendo parlare soprattutto di due autori cattolici molto benemeriti, Joseph Blanc e Rudolf Pesch. Blanc ha una serie di articoli, di cui due comparsi anche in italiano, su numeri diversi di Concilium, uno mi pare nel 71 e uno nel 73. C'è poi un articolo anche di Rudolf Pesch e un articolo prima nel 67 di Rigaud, tutti molto preziosi perché condotti da gente che proprio aveva le mani in pasta. Rudolf Pesch, oltre ad avere scritto in tono divulgativo appunto questo intervento su Concilium, ha poi scritto quella biografia di Pietro inserita in una collana Päpste und Papsttum, edito da Hirsemann a Stoccarda, e che credo sia l'opera più interessante che è concesso oggi di leggere su Pietro, anche se evidentemente porta con sé tutte le sue posizioni, una spiccata preferenza e una quasi cieca fiducia nella attendibilità del dato marciano e una certa interpretazione del significato dell'incontro con il risorto nel suo rapporto che ha nei confronti dell'inizio della fede pasquale, letto come legitimations process a proposito di Pietro, come di tutte le altre autorità della Chiesa primitiva, e cioè un racconto che ubbidisce allo scopo di legittimare autorità che già esistono. Ora, da una parte dicevo troppo, mi sembra, ottimista il Kuhlmann e dall'altra parte estremamente dubbiosi sia Pesch sia Planck. Ho l'impressione che si riduca la storicità a ciò che è episodicamente perseguibile. E allora è evidente, si deve dare la preferenza a Paolo, ecco che si sente normalmente il giudizio, il Pietro della storia quasi non riusciamo ad afferrarlo, il massimo di attendibile lo riceviamo da Paolo, il resto tutto fatto redazionale. Ora, credo che la richiesta metodologica debba enunciarsi come obbligo di prendere coscienza di quell'altra storicità legata alle redazioni. Lo stesso discorso che si deve fare di Gesù. La redazione non ci trasmette niente, forse episodicamente niente, ma ciò che è realtà del destino di una persona è soltanto l'episodico, è da rivalutare questa storicità per la indicibile ricchezza del proprium che essa ci comunica a proposito dei personaggi di cui si interessa. Si ubbidisce un po', anche se lo si rifiuta come criterio di ricerca, a quel giudizio che dà la probabilità di attendibilità storica a ciò che ci è riferito da tradizioni arcaiche, mentre invece è da riconoscersi la possibilità che anche in tradizioni recenti, anche attraverso mediazioni già colorite di riflessione teologica, ci sia un dato sfruttabile. Certo, è segno della valutazione che la comunità cristiana dà di una determinata persona, di un determinato fatto di comunità. Ma prima ancora, questo ricordo trasmesso attraverso una segnalazione redazionale è segno della consapevolezza che queste comunità hanno del fatto che quelle valutazioni si fondano sui contenuti della vita di Gesù. Da questo punto di vista, il grosso problema, ciò che è stato trasmesso di Pietro, si colloca nella esperienza di Pietro a contatto con Gesù, in ciò che egli è veramente stato nella Chiesa primitiva, oppure è semplicemente simbolismo o mito a seconda della nomenclatura che si trova presso questi autori. Nel momento in cui la critica storica pronuncia sull'elemento episodico un giudizio piuttosto severo, forse che, tenendo conto delle considerazioni che facevamo adesso, non si è raggiunto una indicazione ancora più impegnativa a dare conto di ciò che le comunità, attraverso le redazioni di questi autori, ci trasmettono, perché essi sentono che ciò che accade adesso, tradotto in questi termini, non può non accadere perché risale a una intenzione di Gesù. L'ultima osservazione che farei si riferisce alla necessità di un quadro più completo della realtà e della teologia neotestamentaria del ministero. E qui evidentemente i miei amici penseranno, attaccato adesso, il tema che dovrebbe richiedere un'altra ora di discussione. Veramente, per fortuna, non siamo partiti con questo titolo del ministero. È evidente che su questo argomento ci sarà da discutere, e io proprio a questo punto lo lascio alla discussione, anche se è prevedibile che ci sarà subito. Viene qui il famoso discorso del rapporto tra storia e dogma, quel rapporto che in campo cattolico, per esempio, nella discussione che è stata ancora ultimamente ospitata in quell'opera che vede la presenza di Grässer e di Blanc, è stato ed è ancora adesso il punto di partenza del discorso cattolico, ed è invece quanto l'interlocutore evangelico non accetta, o non accetta facilmente, o non accetta se non a patto di grosse riserve. Così, il discorso della legittimità che è concessa alla esistenza attuale del papato, in qualche modo anche del primato, ma sul discorso del primato ci si introduce inoltre meno volentieri, legittimità a patto che si sappia relativizzare questa istituzione. E questo è un discorso che a sentire Grässer e Blanc come rappresentanti, protagonisti di un dialogo, ma protagonisti molto rappresentativi, dovrebbe avere raggiunto una certa quale condizione di consensus, perché Blanc stesso insiste su questa necessità per il papato di sapersi di molto relativizzare. Fino a che punto? E nei riguardi dello statuto neotestamentario questo non viene più detto, e quando viene detto in maniera diversa. Difatti, ecco il Grässer, come riconosce questa possibilità? A patto che si riconosca che l'ufficio papale, insieme a tutti gli altri uffici presenti nella Chiesa, risponde a una esigenza di tipo regolativo per la Chiesa. Nel momento che uno rende questo ufficio, questo servizio, come qualsiasi altro, in particolare il discorso su questo è particolarmente pesante, nel momento in cui lo si rende costitutivo della Chiesa, in questo momento ci si sgancia dal dato neotestamentario. Ed è evidente allora a questo punto che i problemi vengono assai meno dalla storia che dalla concezione di Chiesa. E difatti egli insiste subito dicendo perché non è questa la Chiesa del Nuovo Testamento. Il problema della concezione della Chiesa ha bisogno di un ancoramento alla volontà del fondatore. Sì o no? Se sì, in quale misura è possibile parlare di un legitimationsprozess come, cioè, interpretare certi particolari che sono presenti nel Nuovo Testamento semplicemente come frutto di un momento di riflessione che viene dopo la esistenza pratica che si è venuta a creare per motivi molto concreti di determinati servizi, uffici all'interno della comunità neotestamentaria, la praxis. Dopo, ecco questa riflessione che cerca di introdurre una giustificazione legittimante la prassi stessa, per passare poi, e allora questa è la parte che crea delle tradizioni e che spiega dunque la presenza nel Nuovo Testamento di certi ricordi, e alla fine poi la riflessione teologica, uno schema che è presentato da Blanc e che sembra non avere lasciato molto contenti nemmeno gli interlocutori che vedevano questo sforzo di avvicinamento. Ci sono delle novità. Si può parlare di conquiste operate dal dialogo, ma credo che novità ne abbiamo viste, dovute a che cosa? Al desiderio del dialogo, all'applicazione dello statuto del dialogo, che contempla necessariamente un muoversi dell'uno incontro all'altro, la capacità di abbandonare quell'aspetto della propria posizione che il confronto con l'altro, nel rispetto reciproco, anche se nella determinazione di essere se stessi, possa suggerire. Credo che la parola consensus sarebbe un po' fuori posto, però frutto è di un affinamento della metodologia della ricerca esegetica e anche della maggiore fiducia fra i protagonisti del dialogo, un certo quale clima nuovo, proposte nuove le abbia prodotte. Quanto di queste proposte sia destinato a sopravvivere, io non sono in grado di dirlo. Il fatto che ci possano essere da una parte degli esegeti come Blanc e Pesch, dall'altra parte degli esegeti come per esempio Ruckstuhl e Pfarrmacher, per rimanere soltanto nell'area del dialogo di lingua tedesca, e che Grässer per esempio giudichi i primi ancora a contatto con il Nuovo Testamento, i secondi, perché su posizioni più tradizionali cattoliche, non a contatto con il Nuovo Testamento, ci dice che la situazione è ancora abbastanza varia. Potevo temere che parlasse del primato come tipologia. Essendo stato il primo, ha offerto una tipologia che se gli altri tre oratori lo seguono, non riusciamo ad avere spazio per dire che, essendo la prima, però era concesso di poter stare un po' più dentro un tempo lungo. E allora vorrei fare queste due osservazioni. Qualcuno che era interessato al tema per motivi direttamente ecumenici è rimasto deluso quando ha visto nel programma che questa questione è trattata tutta da cattolici. Si aspettava che, trattandosi di questo tema, ci fosse una specie di dibattito, di confronto tra posizioni diverse, cioè tra posizioni confessionali diverse. Ma solo per i protestanti, o per i cattolici? Solo per i protestanti, c'è la parola presentata. Sì, e la risposta che io ho dato è questa: la situazione attuale, per noi in Italia almeno, per i teologi, è quella di essere informati su quella che è la posizione, cioè non siamo chiamati in questa sede in particolare a fare un dibattito, un confronto ecumenico tra posizioni. È già molto se noi con umiltà ci mettiamo alla scuola di alcuni che fanno prima di noi un lavoro per essere informati, per capire qual è lo status questionis a vari livelli. E quindi da questo punto di vista io ho voluto in questo momento precisare la natura di questo nostro incontro. E secondo, il maggiore spazio che è stato concesso per la prima lezione ha un valore così anche pedagogico, perché normalmente già nella prima relazione, che non soltanto è decisiva perché è biblica, per noi il momento biblico è principale, ma essendo la prima normalmente fa sorgere quasi tutti i problemi. E quindi è bene che all'inizio ci sia una specie di allenamento ad assumere un po' tutto il discorso, venendo da lontano, qualcuno è venuto da molto lontano, eccetera, ci voleva anche questo tempo di apprendistato. Mentre domani io penso che sarà lecito e doveroso saper condensare subito la nostra discussione. Allora, abbiamo almeno 45 minuti di non facciamo tempo. Pausa, se altri minuti. No, io direi di no. Lavoriamo, già che siamo venuti qui per lavorare. Siamo venuti qui per lavorare, dai. Abbiamo deciso, no, che almeno in questo sfruttiamo la tecnica moderna, che ci consente in una giornata e mezza di fare un lavoro che altre volte bisognava distendere in tre giorni. Perché con i mezzi tecnici uno arriva qui, si condensa tutto, poi si riparte domani sera come avessimo fatto un lavoro di tre giorni. Io sarei propenso a non dare troppo spazio. Dopo cena abbiamo la possibilità di discutere, di trovarci anche in maniera serena. Allora, ricordate la tematica, era un'informazione sullo status questionis. Il professor Ghiberti ha preferito dare molto spazio, penso che abbia fatto bene nel accettare questo tema, al momento in cui si è verificata una novità all'interno dell'esegesi, il discorso di Kuhlmann. In qualcuno di noi sarà nata la curiosità di meglio precisare alcune cose o di chiedere informazioni sull'ulteriore sviluppo. È chiaro che a livello di dialoghi ecumenici non si fanno studi immediatamente ponderosi, ma lì magari si incontrano a frecce i dibattiti di alcuni degli studiosi in se stessi. Quindi probabilmente forse a questo livello non ci sono state delle grosse novità. Lui ha tentato poi di mostrare come sostanzialmente le aspirazioni sono state nuove, forse i risultati ancora non sono dichiaratamente nuovi. In questo contesto, allora, con questa ottica, vediamo se ci sono degli elementi da precisare, sui quali intervenire. Vedo già il mio amico Giampiero Bocchi che è subito pronto per fare delle domande. Fai delle esposizioni, non delle domande, così. Vabbè, allora parlo. No, io non posso fare delle esposizioni perché non sono un esegeta, quindi sono un bastagno. È la reazione proprio di uno che cammina al margine un po' di questi problemi, così come sono stati impostati. Proprio per questo può forse toccare alcune questioni generali che possono forse avere un qualche interesse. E prima di tutto, mi pare che una mia reazione di disagio nei confronti di questo tipo di discorsi riguarda la insufficiente riflessione sulle categorie impiegate nel discorso esegetico. Il discorso esegetico sembra un discorso per certi aspetti neutrale dal punto di vista di questo impiego. In realtà, invece, per me mi sa proprio di terreno minato quando si usa termini come capo, come primato, e va avanti di corso passo. Ma a questi gli esegeti sono abbastanza attenti. Ma per esempio, ecco, tutto quanto è legato, soltanto per richiamare un punto al quale tu hai fatto riferimento, tra l'aver avuto una apparizione, no? Pietro che ha avuto la prima apparizione, la differenza tra l'aver avuto la prima apparizione e il dir nel Nuovo Testamento, il dirsi, il dichiararsi che ha avuto una prima apparizione. Per me sono due momenti molto rilevanti che mi piacerebbe fossero chiariti nella loro differente portata, proprio perché sia chiarito poi il contenuto di tutto il discorso. Così come il legame con la volontà del fondatore è un'altra categoria quanto mai vaga e quanto mai problematica. Ecco, e mi fermo. Però ecco, sottolineavo soltanto l'esigenza di questo primo punto. Secondo, soprattutto parlando del refoulé, tu hai insistito sul riferimento a determinate figure storiche di trasmissione del potere. Ora, se si segue questa linea, mi pare una linea nobilissima, ma si pongono i presupposti di una storicizzazione di questa trasmissione. E allora mi chiedo, se il processo della storicizzazione è assunto in forma radicale in questo senso, non si pongono le migliori premesse proprio per perdere, se ce n'è, una specificità della trasmissione Pechino? E questo mi pare che sia un altro problema che abbia un qualche rilievo. Poi si fanno altri generi di affermazioni. Tu, per esempio, hai richiamato che la comunità non può essere fonte del potere, o meglio, hai detto che il fare la comunità fonte del potere è forse più riformistico che neotestamentale. Sono perfettamente d'accordo. Ma che cosa facciamo noi, di fatto, nell'interpretazione completa della successiva? Non facciamo la comunità locale di Roma, in qualche modo, lo strumento della trasmissione, o lo facciamo del luogo di Roma? È un problema, ecco, mi pare che non possa essere sganciato l'una all'altra. Inoltre, il richiamarsi a delle analogie, in generale, a delle analogie di carattere storico, proprio per interpretare la successione petrina, per esempio. Ecco, mi pare che riproponga esattamente il problema della perdita della tipicità. E finisco con un'ultima osservazione. Perdita della tipicità. Ah. Di quello che noi vorremmo affermare. Possiamo riferirlo alla seconda? Sì, un po' sì. E poi l'ultimo è finito, è questo. Tu alla fine hai toccato il problema della interpretazione della storicità. Mi pare che tu abbia perfettamente ragione in quello che dicevi. Ma quello che dicevi allora ripropone il problema generale della precomprensione a partire dalla quale ci siamo. Non si può assolutamente risolvere per me la storicità nell'episodio. Ma l'uscire fuori dall'episodico, che ha una certa sua consistenza positiva, se volete positivistica, no? Esige in fondo una messa in opera di tutta una precomprensione, che è quanto mai problematica. E allora i risultati restano condizionati a questa problematicità radicale, no? Che appunto governa qualsiasi impiego di categorie che esulano appena, diciamo, dalla fissazione dei dati positivi. E basta. Ne hai fatto già abbastanza? No, ne hai fatto 5. Sarei curioso di sapere come imposteresti il tuo problema. La prossima volta, al prossimo congresso. No, la prossima volta. È meglio che tu risponda subito, sì. Penso, perché sennò... Posso lanciare? Sì, se vuoi. Anch'io sono stato... Per non dargli troppo... No, non essendo del mestiere affatto, lo premetto. Sono stato impressionato soprattutto di questa distinzione tra l'episodico e quello che ci sta sotto, cioè tra il Pietro della storia e diciamo il Pietro della fede in questo caso, no? La contrapposizione tra il factum, tra il fatto Pietro e il mistero. Io sul piano biblico non mi sento di proseguire il discorso, ma mi viene spontaneo riferirmi a Leone Magno, che concepisce il primato solo in queste categorie. No? Come una virtus operis, no? Un contenuto del fatto episodico che nel successore riaffiora, no? Secondo una struttura che è quella del sacramento. È una teologia che naturalmente con la scolastica è andata fuori uso. Io non so se di questo mysterium si possa dire che non è attingibile se non mediante una precomprensione. Per me la domanda, per questo mi sono voluto riagganciare qui, la domanda è se questo sia afferrabile solo insomma, mediante una precomprensione, oppure se non possa essere in categorie razionalmente, certo, poco afferrabili, ma non possa essere un nobis datum, no? Qualche cosa che è dato a suo modo dalla rivelazione. Ecco, questo mi è venuto spontaneo. Allora, se vuoi rispondere brevemente, non tanto perché non darti la parola, ma perché adesso non interessa molto che tu faccia un'altra conferenza, perché ci sono già 5-6 elementi, che sono, ma per suscitare un certo cumulo di interessi, perché penso che da questo momento noi diventiamo attivi. Sì. Metterei insieme queste due ultime e poi tornerei un po' indietro. Tutto quello che esplicitava Monsignor Roger è giusto. La mia preoccupazione era un tantino sopra e si potrebbe chiarire così. Io non mi preoccupo, sì, certo, son sicuro che al di là dell'episodico c'è il mistero, ma mi preoccupavo di rivendicare dignità storica o non so, io statuto storico inteso però in una determinata maniera, non soltanto per capirci, inteso alla maniera dei post-bulmaniani che cercano di recuperare al di fuori dell'episodico ciò che in Gesù ci può essere di tipico, anche se appunto non è episodico, ciò che è trasmesso a noi per la via della redazione. E cioè, per me fare la distinzione tradizione uguale notizia storica, magari non tutte le tradizioni, perché poi bisogna ancora naturalmente sceverare le tradizioni, ma comunque solo attraverso la tradizione la notizia storica, quando siamo in un elemento redazionale, lì di sicuro la notizia storica non c'è. Sì, la redazione probabilmente non mi dà dei dati episodici, ma mi dà qualche cosa di costitutivo per la ricostruzione del cammino, dell'esperienza, di ciò che costituisce la cosa, l'aspetto più autentico della persona. Adesso non riesco a dirlo nemmeno con troppa chiarezza, anche perché qui sotto c'è il grosso problema della critica storica che non deve essere fatto qui. Invece vorrei chiederti, Giampiero, la prima esemplificazione che hai fatto sulla insufficiente riflessione a riguardo delle molte categorie che sono venute fuori, era l'aver avuto un'apparizione e il fatto che il Nuovo Testamento dica che Pietro ha avuto un'apparizione. Ritraduco giusto? Ecco, adesso la cosa, non capisco dove stia il tuo problema. Sta nella attendibilità di ciò che il Nuovo Testamento dice, e cioè quanto nel fatto del dire viene ancora riferito di ciò che è l'esperienza dell'origine, oppure è proprio un'analisi linguistica che tu vuoi fare adesso? Io la citavo proprio dal punto di vista di un'analisi linguistico concettuale, non proprio categoriale. Quando io dico ha avuto un'apparizione, io immetto in quello tutta la mia comprensione che ho delle apparizioni. E questa è una problematica che può essere corretta, può essere anche sfasante. Mentre invece la problematica più corretta sarebbe il Nuovo Testamento dice che ha avuto un'apparizione, e questo comporta per Pietro una certa cosa. Ecco, dovrebbe essere questa la direzione. Ma comunque come pura forma di esemplificazione, sì, sì. Insistere su questo punto. Ma ha una certa coerenza con altre cose. Io mi rendo conto che le cose stanno in quei termini lì, però sono anche convinto che sia compito di colui che cerca il senso, no? E quindi chiamalo l'esegeta, chiamalo l'ermeneuta, chiamalo anche filologo, no? Di colui che si pone di fronte a un testo e deve arrivare al senso, di rendersi conto, di cercare di dire, almeno di proporselo, poi ci riuscirà, non ci riuscirà, sarà convinto lui, riuscirà a convincere gli altri, soprattutto azzecca o non azzecca, un'altra faccenda. Ma lo statuto del suo lavoro lo deve portare fino a quel punto là, lui deve arrivare a dirlo. E quindi, certo che è comodo, è più oggettivo, ma dice di meno. Ma lui non ha... Adesso a me importava e non importava, potevo benissimo dare la tua formulazione perché non si richiedeva di più, no? Cioè che noi non trasferiamo su un eventuale testo che conosce il Nuovo Testamento tutto il seguito di traduzione, di sedimentazione, questo è in definitiva in soldoni. Il discorso del Re Fouillé, adesso io non so se tu ce l'hai presente, io ho letto solo una citazione, questo lavoro l'avevo invece smaltito tanto tempo fa, forse tu ce l'hai più presente di me. Come riesco a ricordarla adesso? Ha questa intenzione di ricreare quella situazione che mi attesta un uso letterario attraverso il quale un determinato contenuto viene trasmesso. Credo che la sua preoccupazione fondamentale sia di dire nell'ambiente nel quale nasce il Nuovo Testamento ci sono talmente tali segni che manifestano questo collegamento di idee per cui supporlo nel Nuovo Testamento non è gratuito. Se questo sia un processo di storicizzazione io non lo so, ma credo che non sia l'intenzione di Rocoletti. Sì, immagino anche lì lo prendevo ancora come modello diciamo di procedimento logico, no? Che non si tratta con la pretesa di fondare il dissimile attraverso il richiamo di tanti simili. Ecco, questo è per me anche lì sì, sì, sì. Un problema logico. È vero. Ma quello vale ancora di più per lo Javier, eh? Sì. L'hai visto lo Javier? No. È una cosa veramente molto molto grossa, ma difatti lui alla fine chiama tutto questo enorme lavoro prolegomena, perché forse c'è Valentina, che, tu l'hai presente il lavoro di Javier? Certo. Ecco, vuoi dire qualche cosa? No, hai già detto abbastanza. Poi si riserva dopo. Dopo è domani. Tutte le frecce per domani. Le 2:30. Sì, praticamente la comunità non fonte di potere, noi che cosa facciamo? E un po' facciamo anche quello dall'altra parte. Volevo farti io una domanda, due. La prima, tu, come ho detto prima, giustamente hai dato molto rilievo al discorso di Kuhlmann, il quale ha un'importanza ecumenica, però non è ancora un discorso fatto dentro i dialoghi ecumenici. Dicevo scherzando prima che hai trascurato una lettura tipologica di Pietro. A me mi sembrava importante questo discorso. L'ho visto fatto nel dialogo appunto USA tra luterani e cattolici in America, sembra recitato da biblista però Lucas Fischer, e mi sembrava che questo fosse veramente un elemento interessante dal punto di vista di esegesi, cioè il superamento di una lettura giuridica riduttiva del discorso. Lasciamo stare la parola tipologia, ma il recupero di una visione più ampia dei dati biblici, in modo che viene situato il discorso di Pietro all'interno del discorso di tutti gli elementi dell'evento cristiano, per cui, come dicono appunto questi ecumenisti, noi dobbiamo recuperare la tipologia, la tipicità di tanti altri personaggi della Sacra Scrittura, cioè tutto è nel mistero dentro la Bibbia e Cristo convoglia nello suo evento, dentro questo grande fatto del mistero storico, però una ricchezza di tante altre figure tipiche. Ora mi sembrava, almeno a me nel leggere questi dialoghi ecumenici, che questa fosse una svolta anche dal punto di vista di metodologia esegetica, di cercare di scoprire dentro l'evento, il mistero Cristo, il mistero cristiano, la tipicità di questi personaggi nella loro grande ricchezza e varietà. E da questo punto di vista, allora, prende importanza, ecco il superamento dell'antitesi episodico e storico, prende importanza il significato dei fatti e non solo il fatto. Allora sì, sono importanti le discussioni tra narrare e fare relazione, ma mi sembra che dentro questo discorso diventi, direi, più logico, più affine a noi, e mi pare una scoperta biblica questa, una scoperta nel dialogo comune. Sia più importante l'andare alla ricerca insieme del significato globale dei frammenti dell'evento. E in questa luce una cosa che mi sembra stata trascurata anche da te, ma è trascurata anche nel dialogo ecumenico, l'hanno scoperto il gruppo di Dom, che allora da questo punto di vista si deve ripensare anche il famoso problema del rapporto tra il dopo il prima, la precomprensione, perché sembra quasi che il discorso dello Spirito Santo sia lasciato da parte in questa prospettiva. Cioè, nonostante tutto, sembra ancora, da come hai presentato, che l'esegesi sia legata al cristonomismo, si dice, cioè a vedere il Cristo come fondatore, e non è un risultato sufficientemente garantito biblico se tu non vedi che Gesù ha parlato, lì sono state dette alcune parole, secondo un'istanza prevalentemente istituzionale, dove il grande tema è soltanto il cristonomismo, ossia la volontà di Cristo, e il tema dello Spirito Santo, cioè il tema di una Bibbia nella quale i redattori, anche dal dopo, io non annullerei l'importanza, dal dopo, dagli eventi, riescono a interpretare il senso di un fatto che magari prima sembrava poco carico di significato. Un episodio viene letto in profondità da un evento suscitato dopo, per cui io vorrei sapere se a livello esegetico funziona un po' anche questo elemento del rapporto Spirito Santo e Cristo. Cioè, praticamente tutta la storia viene convocata anche nel dopo successivo al biblico, al momento biblico, per una lettura biblica. Eventualmente mi domando se questo appello al dopo diventa un ostacolo a una esegesi scientifica, o in che misura. Ma è stato riconosciuto nel congresso del pneumatologico di Roma che veramente dobbiamo fare un salto e dare più spazio a questo diremmo, appello all'azione dello Spirito Santo. Allora potrebbero saltare alcune nostre dialettiche che contrappongono il dato biblico come neutrale, dicevi tu, accessibile, parlo a te, che ha una sua consistenza resistente, e la storia che casomai viene lasciata un dopo avulso, senza senso. Il problema dell'ermeneutica a partire da quel punto. Sì. Per cui allora a un certo punto io mi domando se, per esempio, anticipo forse a un discorso di domani, se il valore del martirio, anche i titoli dati a Cristo, a Pietro, il valore del martirio non deve avere un significato ancora più vasto di quanto viene dato al tema del Pietro martire. Nel senso che l'essere morto martire a Roma, e qui davvero che sono contento che c'è Monsignor Conte, casomai interverrai domani Monsignor Conte. Mi rifaccio appunto al discorso di domani mattina, dove c'è una tradizione che vede il primato di Pietro in Roma, diremmo, no, consistente proprio in virtù di una presenza di Pietro, un primato mistico, presenza di Pietro che, morto martire a Roma, conserva il suo rapporto con Roma e l'aiuta a vivere, diremmo, immacolata, quella famosa tesi di una concezione della presenza mistica di Pietro. Ma non voglio anticipare, soltanto voglio... C'è Clemente Romano, sì, ma c'è tutto riversato di quel Paolo. Perché non Paolo? Ecco, appunto. Pietro e Paolo, appunto, sì. Ma in questa lettura vedi che allora i titoli, la tipologia, più che passi giuridici, tu e Petro, la tipologia del Pietro è in tutte le sue, diremmo, tutte le sue dimensioni, immagini, ha una ricchezza di mistero, per cui veramente il discorso salta. Ecco, volevo sapere se a livello biblico c'è o non c'è. A me sembrava di aver intuito dentro i dialoghi ecumenici questo nuovo modo di leggere la Bibbia. Tu hai finito? Sì, no, scusa, volevi fare due osservazioni, forse io ne ho colta solo una. Sì. No, no. Chi? No, ma io. Sì. Vorrei chiedere al professor Ghiberti se ha rilevanza nel discorso biblico il quadro evangelico complessivo etrino che ci segnala un itinerario di maturazione di questo discepolo di apostolo, soprattutto in questi elementi della correlazione che in ciascuno dei tre testi evangelici fondamentali di Matteo, Luca e Giovanni c'è tra il dato positivo e il dato negativo. Tu sei Pietro, lungi da me Satana, tu abitando col versus confirmatis fratres tuos, e in Giovanni 21, 15 seguenti, il fatto che venga richiamato il tradimento nell'atto stesso in cui a ciò, attraverso il gioco del pentimento, viene collegato il pace annos e il pace opes. Un secondo elemento collegato a questo è dunque l'itinerario spirituale compiuto da Simone Pietro, da un livello suo umano che fa sì che egli compia l'approccio al regno di Dio attraverso categorie umane, servendosi di mezzi umani, fino a giungere ad entrare nella mentalità di Gesù, collocandosi nell'ambito del regno di Dio, lasciandosi coinvolgere fino in fondo, ma secondo un piano che non è il suo piano, secondo un modo di vedere che non è il suo, secondo vie che non sono le sue. Questo fatto, cioè che Pietro venga sottratto a categorie umane per entrare orizzontalmente dentro le categorie del regno di Dio, non potrebbe sottrarlo, il sottrarlo tra virgolette, ad una sua storicità semplicemente individuale per farlo entrare esattamente in un ufficio istituzionale, ufficio istituzionale virgolettato, biblicamente c'è base sufficiente per ragionare in questi termini? La seconda domanda collegata alla prima è questa: che rapporto c'è biblicamente tra i testi petrini, matteano e lucano da una parte e giovanneo dall'altra, per dirla secondo una prospettiva ortodossa? I primi due testi legano Pietro a un Gesù, il terzo testo lega Pietro al risorto. Ecco, questo fatto, cioè di questo dinamismo petrino in rapporto a un Cristo passibile e crocifisso e a un Cristo risorto, ha rilevanza anch'esso nel discorso petrino che si ricava dai Vangeli, secondo le discussioni odierne? Do spazio dunque alle domande, anche se dopo ci farà un po' più difficoltà. Sottolineo una delle parti che ha detto lui perché mi interessa a livello ecumenico italiano. I biblisti protestanti italiani, per esempio, con estrema facilità dicono: nel Nuovo Testamento troviamo sia un Pietro elogiato, sia un Pietro discriminato, e allora i testi della crescita si elidono a vicenda. Mi interesserebbe questo discorso. Giuliati e poi Fabris. Io volevo fare una domanda previa, cioè rispettata, se si vuole, dai canoni della critica della conoscenza. Ora, il discorso che ho sentito per me è molto interessante, che si sono volte fuori in parenti mi interessa di sociologia della serie. Però volevo chiedere, a livello di studiosi di questo problema, sulla base della Sacra Scrittura, sia in casa cattolica sia in casa non cattolica, perciò a livello del dialogo ecumenico, quanto è presente la consapevolezza che la Bibbia è soltanto una delle registrazioni e derivata, fatta di ciò che è veramente accaduto? Perché se io faccio un discorso su dei fatti accaduti 2000 anni fa, tutto è condizionato dal tipo di registrazioni che attualmente ne ho. In un tipo di registrazione fatto prevalentemente in forma orale e trasmesso in forma orale, il grosso problema allora è quello di recuperare questa forma orale. Se questa forma orale non è recuperabile, tutto il discorso che io posso fare su ciò che me ne resta e di tipo derivato deve essere profondamente messo al condizionale, con la consapevolezza che moltissimo, forse gran parte, resta fuori di quello che posso dire. È presente questa consapevolezza oppure no? Che il discorso è fatto in forma realmente ipotetica oppure no? Perché mi pare che la stessa considerazione che i non cattolici fanno della registrazione non scritta è piuttosto, diciamo così, basso. Fino a che punto è presente questo fatto e come condizione positivo e negativo tutto il discorso che si fa o che si potrebbe fare su questo tema? Finalmente troviamo un biblista adesso, interlocutore. ti sente tuo agio adesso. Don Fabrizio. Ghiberti ha fatto una panoramica e rassegna, mi pare, molto approfondita, partendo dal Pullman e arrivando alle ultime voci, il momento rappresentativo dei biblisti americani, che forse è l'aspetto e la porta più significativa dopo quello del Pullman, poi gli altri sono voci separate, no? E la mia impressione di fronte a questi testi e anche leggendo queste opere è di una lettura ancora frammentaria, dove i testi di Matteo, Luca, Giovanni sono stati richiamati, qui anche il problema episodico, tra l'episodico e il significativo. Non so se si suppone un salto di qualità anche per un dialogo ecumenico, per cui la metodologia esegetica, senza rinunciare alla critica storica, integrata con tutte le altre, che è strutturalismo, altre cose, eccetera, forse è un'impostazione globale dove il ruolo di Pietro, chiamiamolo ruolo per né ministero né primato, il ruolo di Pietro nella prima chiesa, come appare attraverso i testi del Nuovo Testamento, forse non risulta né da Matteo 16, né da Giovanni 21, o Luca 22, 32, oppure presi isolatamente, oppure messi anche nel contesto. Allora, io presento questa ipotesi all'amico Ghiberti. Il fatto globale, visto non in una discussione che può essere confronto, dialogo, conversistico, come volete chiamarla, ma in un'intesa ecumenica, tenendo conto di come noi abbiamo attualmente i testi, che poi è l'unica maniera, con tutta la buona intenzione di costruire quello che è orale, quello che è sentito, eccetera, comunque il biblista deve esaminare i testi, perché questo è il suo compito, altri per altre cose. Esistono quattro tradizioni, così grosso modo. La tradizione, chiamiamola paolina, che è abbastanza tranquillo perché ha una documentazione, ma quando dico tradizione non solo i testi, Colossesi, Efesini e Pastorali, del Pastorale è una cosa impressionante, è il fatto della tradizione lì garantito, ti ho messo nelle comunità perché tu stabilisca per scrivere e insegni, però non c'è nessuna, c'è una nessuna, Paolo, Pietro non c'è, né Giacomo esiste per il Pastorale, cosa impressionante, una chiesa che va avanti senza Pietro, senza Giacomo. Una constatazione che va fatta questa. Le chiese di Efeso, le chiese di Creta o dell'Asia, diciamo, del gruppo dell'Asia, non ha nessun riferimento a Pietro e a Giacomo. Esiste un'altra tradizione, chiamiamola Petrina, dove per tradizione Petrina non intendo solo Matteo 16, perché Matteo ha altri brani Petrini, si potrebbe chiamare tradizione Petrina, il capitolo 14, su Pietro sul cammino sulle acque. Il problema del tributo della tassa al Tempio è solo Matteo, e ci sono tutta questa tendenza petrina, e lo chiama forse per alcuni a Pietro in alternanza a Giacomo. So quanto tiene questo, cioè di mettere sotto l'autorità di questo apostolo l'Evangelo di Matteo. Tradizione petrina che sarebbe confermata ancora nella prima lettera di Pietro, che però per alcuni è a metà strada Paolo e Pietro. Rifletterebbe la tradizione pellegrina e paolina fuse insieme nell'ambiente dell'Asia. C'è una tradizione di Giacomo, la lettera di Giacomo, anche non attribuita a Giacomo, eccetera, però il fatto che venga messo sotto quel nome riflette una tradizione che documentata in maniera molto limitata, però è presente ed è confermata dai testi lucani, in modo particolare di Atti degli Apostoli, che hanno questo riferimento, e poi Galati, che si riferisce ancora. E più la tradizione giovannea. Quindi avremo questi quattro filoni riflessi negli attuali testi che fanno capo a queste persone. Che ruolo ha la tradizione pellegrina rispetto alle altre tre? Che ha chiamato Giacomo, Paolo e Giovannea? La mia impressione è questa, che nella tradizione pellegrina c'è la possibilità di un incontro o incrocio delle altre. Perché, è tipico, questa è la prima lettera di Pietro, alla fine si richiama a Silvano e a Marco, che sono i portavoce di due, cioè Pietro e Paolo, fusi insieme in questa tradizione che e convogliate insieme. Ecco, allora il ruolo di Pietro aveva questo aspetto, diciamo così, di convergenza delle tradizioni, in quanto ha un rapporto particolare con il Cristo tramite i dodici e con la Chiesa di Gerusalemme, cioè ha questa funzione. Allora, per il discorso ecumenico, in prospettiva, forse riprendere questo modello delle tradizioni che convivono e si incontrano in Pietro. L'ipotesi di tradizioni luterana, ortodossa, cattolica, che convivono nel futuro, questo mi sembra il modello che noi ritroviamo, e questa era l'unità. A Gerusalemme era per conto suo, la tradizione pellegrina di Paolo stesso. L'incontro veniva attraverso questa convergenza, riconoscendosi in una tradizione centrale. Si chiama Alfati. Alfati, professor Alpina. Dica di chi sono. Dica, deve parlare? Cioè quello della successione, non sono un biblista, quindi neppure per due anni successivi, comunque non ho chiesto luci né lumi. Mi sembra che nell'esposizione si sia fatto riferimento a questo termine in rapporto evidentemente alla successione Pietro, vescovo di Roma. A parte le affermazioni rapporto Pietro Giacomo come successore della comunità di Gerusalemme. Però è anche vero che nella tradizione cristiana è presente una concezione della successione, che mette in rapporto, non questi due termini, Pietro, parla di Roma, ma Pietro è colui che presiede. E qui vorrei fare un riferimento a un intervento, un lavoro che questa è proprio una pubblicazione e un intervento che ha tenuto il padre De Nogatti orientale a un recente convegno su da Roma, la terza Roma che si è tenuto subito in Campidoglio, quindi ricordare come in ambito siriaco del IV secolo ci sia una percezione del primato, diciamo, di Pietro, ma assolutamente assente è il primato del vescovo romano. Sicché la successione è tra Pietro e colui che presiede. D'altra parte io, milanese, sono bene, ambiente, ambrogiato, ho nelle orecchie l'espressione di Gaudenzio, nel momento dell'ordinazione, quando dice adesso spetta a te, Ambrogio, prendere la parola, perché tu devi parlare tanto quanto è successo all'apostolo. Qui poi allora si pone il problema che De Rogata ha posto, ma questo forse è più teologico che esegetico, del ruolo di Roma. Precedentemente il primo intervento aveva parlato comunità di Roma o il ruolo di Roma come artefice della trasmissione, ma allora c'è un problema appunto, cioè il ruolo di Roma e della sua comunità globalmente come fatto storico che ha ancorato la successione e ha fissato l'attenzione su questa particolare specifica successione Pietro, Papa di Roma, togliendo poi almeno dall'orizzonte delle chiese mediterranee il rapporto teologico invece tra Pietro e colui che presiede la tradizione antica parrebbe a testa. Sopperi e dopo sì. Tre brevissime osservazioni, perché a due praticamente è già implicitamente risposto Monsignor Sartori, quando ha ricordato che il carattere della relazione del professor Ghiberti aveva uno scopo prevalentemente informativo, cioè dare una panoramica di ciò che si è fatto. Tuttavia resta che leggo che il tema è sui i testi biblici petrini nella loro risonanza, nella loro esegesi ecumenica. Io non so se è per mancanza di tempo o di spazio, ma non vorrei che si dimenticasse che in questa panoramica andrebbe detto che c'è una esegesi dei testi petrini, particolarissimamente il tuo Spectrus, ma ci sono molti altri, che sono fondamentali per la Chiesa ortodossa. Si può arrivare all'attualità, Tremperi, Carmiri, chi volete voi, ma si può cominciare più vicino a quella lì, a 1601 anni fa, quando Palladio di Raziaria ha dato l'interpretazione dell'esegesi di questo testo, contestandolo al Papa, dicendo lo Spectrus vale per ogni vescovo, che sarebbe poi la stessa cosa, come Ambrogio studiava mica male, e gli orientali, Petri successo, è una lettura, un'esegesi che fa parte tranquillamente della lettura di questi testi paulini. Ora, mi pare che confrontandosi ecumenicamente, sì, bisogna tenere conto di cosa dicono o hanno detto i protestanti e i problemi che questa esegesi ha sollevato, ma credo vada tenuto conto anche quello che da 1600 rotti anni dicono, anche in contestazione ad Amos o ad altri, i padri greci, perché Crisostomo, i padri greci hanno dato questa esegesi. Seconda osservazione, e puramente per chiarezza, tutti l'abbiamo capito, ma insomma qualcuno l'ha anche richiamato, ma vale la pena di sottolinearlo. Quando si cercano delle novità di letture, novità di proposte, prima il nuovo nell'ecumenismo, eccetera, mi pare che vada tenuto, per ragione di metodo, molto presente una distinzione sostanziale tra esegeti, faccio il caso di Pullman, e i tecnici dell'ecumenismo, che sono coloro i quali, tutti e due, questi qui servono all'ecumenismo, ben inteso. Però gli uni in modo per così dire creativo, costitutivo, gli altri come mediatori in quanto cercano giustamente di trovare delle opinioni medie all'interno della propria chiesa e a loro volta mediabili con l'esegesi delle altre chiese. E in questo senso i due piani sono molto diversi, il secondo è inevitabilmente di banalizzazione, lo dico nel senso migliore, ma è così. Ecco, non si può scambiare Pullman con un funzionario del nostro o di un altro segretariato, ecco, ma ma questo con tutto il rispetto per chi può essere anche teologo, naturalmente, o esegeta, però certo non professionale, che se uno veniva a provare con una cosa non ne fa un'altra. Ecco, questo per chiarezza. Perciò quando si cercano le novità, se le cerchiamo sul piano esegetico, chiediamo le esegeti, anche in vista del comunismo, se lo cerchiamo sul piano degli incontri, vabbè, cerchiamolo nei testi, è giusto, però sono due livelli profondamente diversi. Terzo, una piccola osservazione, qualcuno l'ha già notato, non mi ricordo chi. C'è ancora il solito Monsignor Sartori. Mi pare di notare, non è un campo mio particolare, per l'esegesi, tutt'altro, però mi pare di notare che facilmente nell'esegesi cattolica si sottolinea o si insiste volentieri, parlo a livello di interpretazione naturalmente, non soltanto di esegesi tecnica, sui testi di carisma, che sottolineano il carisma, il ministero di Pietro, insomma la sua funzione primaziale, se si può dire così. Mentre è chiaro che i testi protestanti mettono volentieri in rilievo, accanto a questi, anche i testi in cui Cristo rimprovera, tratta da Satana, Pietro, eccetera. Questo si trova anche nell'ultima relazione che ha fatto Chapin, un protestante a Ginevra nel 81, ma insomma si trova spessissimo. Ora, mi pare che gli uni e gli altri testi sono importanti, bisogna inquadrarli tutti per cavarne possibilmente una lezione. Ma se non mi sbaglio, poi vorrei che gli esegeti dicessero se sbaglio, ce n'è uno, Atti 15, 25, 27, quello di Cornelio, che a me sembra che negli uni e gli altri citino mai in modo specifico, e che invece ho l'impressione sarebbe quello sul quale in sede ecumenica si dovrà arrivare. Pietro che dopo negli Atti, quindi dopo la Pentecoste, certamente dopo il suo spettro, che sia stato detto prima o dopo la risurrezione, non ha a questo punto importanza, e certamente nell'esercizio manifesto, come racconta il testo, delle sue funzioni di guida, di capo, chiamate come volete, cioè praticamente di fronte a tutti gli altri fedeli cristiani perplessi, dice: ma che guardate, perché non dovrebbero anche, se lo Spirito è andato anche in pagani, perché non dobbiamo prenderli? Quindi evidentemente prende una posizione che è molto importante. Ora, in questa stessa condizione, nella manifesta consapevolezza, coscienza e atto di guida, dice a Cornelio, al non cristiano: ma che sei mai a buttarti per terra a prosternarti? Sono un uomo anch'io. Ora, questo testo, io credo che non si possa banalizzare in un aspetto di umiltà o di atteggiamento etico di Pietro. Credo che ha un senso pregnante anche per insegnare, per dire, ci chiameranno gli esegeti, che la stessa, adesso esagero naturalmente, istituzione papale che nella storia non toglie l'incarnazione, ha i limiti, i difetti e soprattutto le regole di vita di qualsiasi istituzione sociale, storica, vivente. Mi pare che questo testo sia un testo che praticamente né l'esegesi protestante ha sottolineato specificamente, se non per dire sono un uomo, io nel senso che certo non è un Dio, ma neanche l'esegesi cattolica. Grazie. Ti diamo la parola per 10 minuti, 15 minuti, poi chiudiamo. Distinzione tra esegeti, vado un po' a ruota libera. Tra esegeti e tecnici dell'ecumenismo, forse è per quello che io, come non so se esegeta, ma ho sentito con, con grande ammirazione quello che diceva all'inizio Monsignor Sartori, e avevo la difficoltà di immaginare come però una cosa così bella si riesca a tradurre in una maniera pulita, cioè che non sia attaccabile da un'altra parte, nello statuto della esegesi. La prima parte di ciò che lui disse, scoprire nel momento Cristo la tipicità di questi personaggi, è veramente molto bella, dove però ci conduce, perché quello che disgraziatamente ci rovina è la maledizione della discussione e delle preoccupazioni di tipo polemico. Siccome il discorso è stato impostato in una maniera giuridica, è molto difficile trovare, forse in campo ecumenico si sarà capaci da una parte o dall'altra di astrarne, ma credo che tutti gli altri si sentano terribilmente condizionati e lo ammetto, anche se cercavo di non dirlo, però venivano fuori anche dentro di me, mentre non soltanto mentre riferivo di Kuhlman, ma mentre vivevo io stesso il discorso di Kuhlman, proprio queste preoccupazioni, perché all'improvviso allora quale ripercussione ha una interpretazione di questo genere su quella che è la tesi? E la tesi per i cattolici è giuridica e per i non cattolici è non giuridica, ma di nuovo in forma di negazione. In particolare una domanda che rimanderei indietro per eventualmente una ulteriore chiarificazione sarebbe questa. Certo che l'appello del dopo è un grande aiuto, soltanto che bisogna leggerlo. Con quale criterio leggere il dopo per chi in realtà ha in mano soltanto il prima, e cioè il testo? Chi ha in mano soltanto il testo o ha già una visione dogmaticamente determinata e allora non è più dal suo testo che dipende la interpretazione, ma da un complesso di precomprensioni che lo condizionano al punto da dare per scontato ciò che dirà. Altrimenti, se parte soltanto dal testo, ecco, di nuovo, una mancanza di fantasia da parte mia per immaginare come la cosa possa avvenire. Forse non so, Sartori dopo, almeno a livello personale, mi dirà poi qualche cosa. Le domande di Conte. Se ci sia stato un itinerario spirituale esegeticamente constatabile nel cammino di Pietro, e poi se e quale sia il rapporto fra i testi petrini dei grandi Vangeli sinottici Matteo e Luca e della tradizione giovannea e di Giovanni, in particolare ciò che è affidato a Gesù terreno e ciò che è attribuito invece al risorto. Se mi attengo al tipo di discorso che ho fatto prima, e cioè applico il criterio della critica storica, e qualche difficoltà ce l'avrei a rispondere, perché la tradizione giovannea, che fa leva su una esperienza di incontro, no, di ristabilimento di dialogo con il risorto, certo ha molto alle spalle. Come si ricolleghi alle altre tradizioni che parlano di una apparizione a Pietro, e in particolare della prima apparizione a Pietro o a Simone, adesso non saprei dirlo, e poi sarebbe un discorso veramente lungo, ma ha qualche cosa alle spalle. Che cosa c'è? Con tutto questo però ci sono tanti esegeti che dicono che non risponde ad una intenzione storiografica dell'autore, quindi immaginarsi. Ma lasciando anche da parte questo, il rapporto continua a essere sotto punto interrogativo fra questa tradizione e le tradizioni di Matteo e di Luca. Come ho detto, Kuhlman lo fa risalire ad una stessa tradizione, soltanto collocata dai diversi evangelisti in posti diversi. Allora il quadro del Gesù terreno o il quadro del contatto col risorto è totalmente funzionale ad una visione teologica, e allora dovremmo rispondere di no alla domanda che è stata posta. E si capisce che una volta che hai risposto di no, il discorso resta chiuso. Io non sono esageratamente convinto che le cose stiano così dall'inizio fino alla fine, è un po' semplicistica la risposta, ma era per dire che il problema è abbastanza grosso. Professor Giuriati, quanto è presente nei lavori, nella ricerca biblica, la consapevolezza che la Bibbia è solo una registrazione di ciò che è accaduto. Non so se la preoccupazione del recupero della forma orale debba essere, forse lei ha alle spalle o ha in mente delle ragioni molto più grosse di quelle che io riesco a individuare, ma per quello che riesco a capire io, non so se sia l'unico discorso o il discorso più grande. È evidente da quello che riusciamo a sapere noi stessi, e d'altra parte già fruendo, perché il metodo storia delle forme si è servito di conclusioni di ricerche sociologiche a questo riguardo, che c'è stata all'origine la forma orale, ma quanto il condizionamento della ricostituzione della forma orale sia determinante per una attendibilità delle ricostruzioni che vengono fatte. In realtà sono già così minimi i risultati che la critica storica raggiunge e concede come fuori discussione, pur senza fare troppo drasticamente questa distinzione, che se poi questa distinzione la si portasse ancora avanti, non so, forse non ci resterebbe più niente. Quanto diceva Fabris è molto interessante il suo suggerimento, ed è un po' la caratteristica della sua visione, sempre molto, molto chiara e anche molto risolutiva dei problemi. Io ho soltanto, intanto una domanda, non ho capito bene se Galati e Prima Corinzi entri nella prima di queste quattro tradizioni oppure no. La faceva entrare lì? Nella Paolina, quello che tu chiamavi Paolina? Sì, i dati storici ci rimanderebbero alla fonte, ma partendo dagli scritti noi abbiamo riflesso. Ah, sì. Ad esempio, Paolina è un altro del quale si scrive. Solo che se noi manteniamo Galati, non so se si possa ancora dire che la tradizione paolina contempla una chiesa senza Pietro e senza Giacomo, che lui se ne sia liberato, ma è un processo catartico che lascia certamente qualche cosa. Non so. No, di fatto delle pastorali. Pastorale è un'altra faccenda. Ma questa è la tradizione paolina per me. La tradizione paolina è il Paolo letto. Ah, la recezione di Paolo. Ah, ho capito. Non è il dato storico. Sì. Mi ero perso un momento. Dunque, e poi c'è la questione della tradizione giovannea. La tradizione giovannea ha già operato lei stessa quel incontro fra Pietro e un'altra componente del vivere ecclesiale. O la riteniamo come un modello di quello che... Il problema non è tanto sapere quali, ma lui faceva il discorso della possibilità di mantenere quattro redazioni, tradizioni, tra le quali una ha la funzione... Sì, c'è un incrocio a livello storico e a livello teologico. Luca ha operato nel quarto degli atti di Renico Luca, l'ecumenico Luca, ha fatto incontrare tutti. Il ruolo di Pietro, con quella scelta, che tende a giustificarsi come fratello della Giudea, deve fargli accettare che lo Spirito l'ha convertito, no? Riesce, poi c'è un concilio, ma Pietro sparisce e rimane Paolo. Ne parliamo un momentino dopo. Io avevo fatto questa osservazione perché mi sembrava che... Chi si assume il ruolo di scolastica? Sartori. Io. Lei sei il colpevole. No, perché mi sembrava che ci fosse un presupposto, e cioè che in realtà fossero disgiunte. Ma comunque, la domanda di Alzati, che poi è stata ripresa parzialmente da Peri. I due illustri colleghi dicono delle cose che sono molto molto vere, che però mi sembra che non hanno un buon interlocutore in colui che sta parlando adesso, perché io sento il condizionamento, come dicevo già prima, molto forte dal fatto che a un certo momento a Roma si è imposta un'autorità. Ora, il fatto visto teologicamente fa precedente e deve essere spiegato. Il filone di spiegazione che è stato ricercato è stato non primariamente, se non vado errato, ma questo dovrebbero dire proprio gli storici, quello biblico. Qualche volta uno ha l'impressione che il discorso biblico sia stata l'occasione o la scusa, ma si è chiarito sempre di più e orientato sempre di più su una linea giuridica, e allora i primi a non sentirsi troppo a loro agio a questo punto sono proprio gli stessi biblisti, ed è veramente, io non ho avuto tempo di farlo rilevare, uno dei disagi proprio degli interlocutori cattolici di questo dialogo. Quanto i biblisti ortodossi e in funzione di Roma, ma soprattutto prescindendo da Roma in forma positiva, hanno dato questa lettura che è una tradizione esegetica cristiana come la nostra, che oltretutto non è testimoniata in Oriente la prima volta, ma è testimoniata in Africa. Adesso è testimoniata in Tertulliano, se non vado errato, la prima volta questa affermazione, no? In una obiezione che egli fa proprio al vescovo di Roma: tu non sei solo tu che hai il diritto di... Io aggiungo una parola per scusare Pastor Peri, l'assenza di una rilevazione dell'esegesi da parte ortodossa, perché è stato chiesto di riferire qual è il movimento esegetico dentro i dialoghi ecumenici in atto, e praticamente sui testi che di fatto hanno realizzato il cammino ecumenico dopo Kuhlmann e Chiara, abbiamo soltanto purtroppo i dialoghi con il mondo protestante, no? È vero che io ho trovato anch'io, ci saranno 4-5 citazioni che si possono fare di autori ortodossi che però sono stati invitati a esprimere il loro, anche nel libro di Kuhlmann, tradotto in italiano, no? Poi negli altri accenni, dove ci sono presso poco le idee che lei ha richiamato della tradizione ortodossa, ma sono state presentate come voce dell'Oriente, ma direi non abbiamo testi ecumenici nei quali ci sia stato l'incontro di voci. Ecco, quello lì, sì, anche lì abbiamo fatto, sì, presso poco, però lì non ci sono delle osservazioni proprio scientifiche a livello esegetico. Invece volevo dire al discorso che ha visto un po' il dibattito emergere tra i biblisti, che almeno come mia impressione mi sembra che ci sono varie tendenze nei biblisti stessi, e non quindi a livello puramente teologico, esegetico, non esegetico. Alcuni, ecco lì il condizionamento della precomprensione, a livello ecumenico sono, direi così, tendenzialmente irenici da cercare tutto sommato la giustificazione della diversità già esistente oggi, e quindi anche l'invocazione a tradizioni diverse, per cui praticamente ognuna ha la sua legittimazione nei dati biblici, viene diremmo prese in considerazione come un elemento che diremmo giustifica, ma ci sono anche gli altri, ecco, che puntano al superamento di una esegesi puramente di testi, ma facendo riferimento alla tradizione globale. Però mi sembra che nello sforzo ecumenico in atto non ci sono queste due vie a danno della prima. Cioè, la prima non si può considerare una esegesi superata, quella che vuole cercare se i testi, dei testi precisi, per esempio quelli tetrini, danno o non danno una giustificazione. Ma vengono fatte quelle altre due cose, quella di ricordare la presenza di diversità nel Nuovo Testamento e la tradizione globale, per far superare l'angustia precedente nel modo di interpretare i testi, ma non per eliminarli. E io ritengo che ci siano tutte e tre queste cose. soltanto che avevo aggiunto l'altra, caso mai domani la metteremo a dibattito, che oltre a, direi, approfondire più che superare, io penso che l'esegesi dei singoli testi che sono usciti da un dibattito, direi, di controriforma e quindi di contestazione mutua, oltre non vengono più, direi, demoliti, ma approfonditi alla luce delle altre due acquisizioni. Per me sono acquisizioni, cioè il voler leggere questi testi alla luce di una lettura più globale, contestuale, e l'altra di dare più spazio anche alla diversità di queste tradizioni. Ma mi sembra il problematico più forte quello del dopo, cioè del come questa lettura biblica riceve luce, proprio riceve luce da fatti che possono essere venuti dopo. Cioè come la storia successiva illumina e fa scoprire questi testi profetici. Questo casomai, a che livello questo nuovo dato appartiene alla lettura della Bibbia? È esegetico? No, forse, ma è chiaro che in qualche maniera deve interessare l'esegesi. Allora la mia domanda che farei è questa, i biblisti domani, casomai. Nel dialogo ecumenico spesso si dice, almeno come dato, non si può più dire che il papato sia contro la Bibbia, ma nemmeno si può dire che il papato si trovi nella Bibbia, diremo, in una maniera già perfetta. Allora abbiamo una traiettoria, diciamo, e addirittura nei testi invece con gli anglicani un regime più vasto di provvidenza che fa camminare il testo con la Chiesa, perché esso riceve lume. Ecco, come io situerei il problema, a mio giudizio, perché si possa meglio definirlo, non in maniera quindi alternativa a un'esegesi giuridica, un'esegesi adesso tipologica, astratta, oppure un'esegesi che giustifica la pluralità già esistente senza più chiedere niente di cammino verso l'unità, verso una verifica dei testi, ma nemmeno un'esegesi che soltanto si configura come lettura dei dati del Nuovo Testamento senza tener conto di una storia seguente. Io penso che questo possa essere un... Allora, ringraziamo. Cioè, com'è la pioggia? Tu ti devi fare un regalo, no? Come? Devi farci un regalo adesso, dillo, segretario. No, uno ombrello. Una soluzione possibile è questa: là giù c'è una serie di ombrelli che ho visto entrando a sinistra. Uno va in macchina,